iniziamo questa serata, parlo con te, che è il terzo incontro di una serie di incontri che si sono svolti in città per permettere ai cittadini di dialogare con i candidati a sindaco nelle primarie del centro-sinistra a Como. Questo terzo incontro, come sapete, è organizzato dall'ARCI in collaborazione con il Comitato per le primarie a Como e segue per l'ARCI l'iniziativa in piazza di qualche settimana fa, nella quale avevamo già chiesto ai cittadini di esprimere le proprie proposte a quello che sarebbe stato poi il candidato, la candidata sindaca a Como. Oggi continuiamo con quella che per noi dovrebbe essere una sorta di interrogazione collettiva, cioè la possibilità per ciascuno, naturalmente con un'autodisciplina necessaria da parte sia di coloro che rivolgeranno le domande che di coloro che dovranno rispondere, per fare in modo che tutti possano dire la loro, fare la propria domanda e così permettere ai candidati di esprimere le loro idee, le loro proposte e se ci riesce questa sera, forse ancora meglio che nelle sere precedenti, anche mettere più in luce, al di là di un'amicizia, una simpatia, una condivisione del comune percorso, anche forse ancora meglio le indubbie differenze tra loro. Ora, prima di dare la parola a Alessio Brunalti e ai candidati che ringrazio e che voi conoscete già, volevo illustrare brevemente quelle che secondo la nostra idea devono essere le regole del gioco. Regole del gioco che ci permettano di parlare tutti e avere soprattutto dai candidati e dalla candidata le risposte che attendiamo in modo che l'interrogazione, come dire, vada a buon fine, cioè sia coronata da successo. Ora abbiamo provato a scrivere alcune regole che brevemente vi leggo. Sarebbe meglio che le domande fossero rivolte a tutti i candidati uno ad uno o una di essi per non farle annoiare. Le domande dovranno essere sintetiche e della durata di non più di 2 minuti. Per aiutarvi sarà proiettato un breve video durante l'intervento di ciascuno di voi, anche delle risposte, che vi darà visivamente la misura di quanto ci fa incazzare chi non rispetta i tempi. Per quanto riguarda le domande, per quanto riguarda le risposte, certo chi non sa stare nei tempi non dà grande garanzia poi di saper stare con adeguato tempismo nel ruolo e casomai provocherà delle lungaggini dalle code o altre meraviglie. Poi vogliamo che le domande siano vere, perché tutti abbiamo l'abitudine di fare talora degli interventi che peraltro sono preziosi. Ripeto, nel primo dei nostri incontri promosso dall'ARCI c'era invece proprio un intervento, una vera e propria. È logico che i cittadini non vogliano fare solo domande, è più che giusto che spetti a loro anche fare delle proposte, ma questa sera è un'interrogazione, non è una spiegazione. Ritengo che non mancheranno occasioni nella formulazione del programma per fare a chi sarà il candidato o la candidata sindaca a Como per il centro-sinistra di fare tutte le proposte. Credo che si aprirà una fase necessaria e utile di discussione collettiva. Ora, quali domande, ovviamente nella più assoluta libertà, noi riteniamo che siano le migliori, quelle che pur avendo un orizzonte casomai molto ampio, perché è evidente che noi vogliamo anche condividere con i candidati e con la candidata il loro punto di vista anche su cose più grandi della tenuta delle strade o dell'accensione dei lampioni comaschi, noi vi chiediamo però di non considerarli onnipotenti, saranno sicuramente bravi, saranno sicuramente capaci, saranno sicuramente all'altezza, ma certo non possono essere loro, per esempio, a occuparsi della deriva dei continenti o di altri, del fenomeno della fuga delle galassie, che credo possa essere escluso dal programma di governo della città. Se per favore vai leggermente avanti, poi non preoccupatevi, mi taccio velocissimamente, do la parola a Alessio. Per le risposte chiediamo anche a voi la stessa disciplina, tanto dura la domanda che la risposta non dure molto di più. Anche qui non prevediamo delle condizioni corporali, ma come dire, il pubblico biasimo. Per quanto riguarda la puntualità, vi chiediamo di non rispondere a domande a piacere, cioè di non rispondere alle domande che voi stessi vi fate indipendentemente. Sappiamo che i talk show televisivi sono pieni di esercizi di questo tipo, noi qui non siamo la televisione, anche se ahimè non mi sono mai trovato con tante telecamere davanti e credo che abbiano problemi di inquadratura quando ci sono io. Ma per quanto riguarda il ripetersi, siccome le domande saranno rigorosamente a tutti, tutti avranno diritto a dare la propria risposta. E d'altra parte è possibile, direi anche auspicabile, che almeno qualche volta ci sia accordo, e quindi vi pregheremo di non ripetere più volte, casomai con una dialettica diversa, idee comuni. Infine, qui siamo tra amici, si potrebbe addirittura immaginare che ci siano dei compagni, e quindi c'è il caso che si voglia avere un punto di vista anche un po' netto, anche un po' chiaro. Non che noi si rifugga dal cerchiobottismo, che come sapete è fondamentale, ma chiediamo ai candidati di riservarlo ai dibattiti della campagna elettorale, perché sennò vostra cortesia e amicizia e cerchiobottismo alla fine ci vogliamo tanto bene, ma non capiamo le differenze che pure giustamente esistono. Tutto ciò tenendo presente, qui vorrei citare un grande personaggio della politica italiana, potremmo dire un tecnico, Totò, che diceva che è la somma che fa il totale, e quindi è del tutto evidente che qui non viene bocciato nessuno e che è importante che l'insieme delle vostre proposte sia condiviso e ci auguriamo vincente. Ecco, detto ciò, passo la parola a Alessio che conduce. Io invece mi sono ricavato il ruolo della valletta, quindi girerò del valletto, se preferite, girerò nel pubblico per fare in modo che ciascuno possa intervenire. Grazie Giampaolo Rosso. Mi ha ceduto la parola perché io sono noto per la mia brevità e la mia concisione. Ti cedo questo servirà anche a chi vuole intervenire dal pubblico, perché è un'altra cosa che non bisogna sentire, non c'è le regole, no, ma tanto la mia voce è forte e si sente, invece in genere indietro non si sente. Quindi ti passo il testimone che ha, usamente la forma realmente di un testimone. E raggiungo lo sgabello per iniziare naturalmente con l'onore di casa ringraziando Marcello Iantorno, Mario Lucini, Giuseppe Entrozzi, Bruno Magatti, per essersi voluti prestare anche a questa occasione. Io so che la campagna che si fa per un'elezione primaria, cosa qui ci hanno abituato soprattutto i film americani più che la politica italiana degli ultimi 50 anni, sono sfiancanti in partenza, perché si possono intendere sì come un riscaldamento prima dell'attenzione vera, no? Perché poi alla fine uno ce la farà e dovrà sfidare e cercare di ottenere la poltrona più importante della città. Però nel frattempo bisogna comunque presentarsi, spiegarsi e fare capire, ecco, allora io nel ruolo sia di moderatore che di, tra l'altro ci sono delle domande che sono pervenute via mail che Giampaolo ha, io partirei da quelle per rompere il ghiaccio più che dalle nostre, io però faccio una domanda che rimarrà spero con una risposta finale, che mi ha mi è molto piaciuto, soprattutto in un momento di gazzarra politica che non sembra essersi quietato neanche adesso, che la campagna che stanno conducendo tutti e quattro sia improntata a un fair play, direi, onorevole per tutti. Per cui non dico che c'è ognuno la parola buona per l'altro, perché non è vero, però ognuno parla per sé, non si mette, diciamo, di mezzo. Ecco, però questo capisco, perché quello che sento da tanti di voi genera un grande dubbio. Il grande dubbio è, soprattutto per chi non è convinto, perché magari qualcuno di voi invece è già convinto, ha già trovato il suo candidato, sa già che cosa vuole dalle primarie, ma soprattutto per quelli che non sanno ancora, non hanno ancora preso questa decisione, è: ma alla fine, che è una domanda logica, ma perché bisogna votare per uno piuttosto che per l'altro? Vediamo di capire quali sono i punti, insomma, no? le cose, affinità e divergenze fra i candidati e noi, e che cosa hanno in mente, non soltanto per la campagna ma anche per la città. E qui chiudo il mio sproloquio. È chiaro che il programma non lo presenta un candidato alle primarie, ma lo presenta poi alla fine il candidato sindaco. Però un'altra cosa che sto sentendo, e io come giornalista assolutamente super partes, le sto seguendo tutte, sono più o meno alla settima, ottava presentazione di schieramenti vari, in cui c'è un ritornello che però sta iniziando a diventare preoccupante, che è: i problemi di Como sono sotto gli occhi di tutti, quindi adesso non è il caso di parlarne. Sta diventando però veramente un ritornello un po' troppo ripetuto, perché fuori non è il caso di parlarne, nel caso di parlarne non se ne parla mai. Soprattutto il problema è vero sotto gli occhi di tutti, però le eventuali soluzioni, anche solo accennate, soluzioni personali, che poi magari non sono quelle che verranno mediate quando si stila un programma, sono comunque interessanti da conoscere. Io chiederei a Giampaolo se mi vuoi dare le prime domande, o se vuoi leggere le tue. Sì. La prima domanda, che è stata posta via mail da Marta Pezzati, la leggo. Tutti e quattro i candidati, durante i vari incontri precedenti, hanno parlato dell'importanza della partecipazione dei cittadini. Vorrei conoscere quali sono i modi e gli strumenti che propongono per attivare e stimolare la partecipazione. Allora, io in un regime di inesistente par condicio, perché siamo tutti dalla stessa parte, ma solo da questa, quantomeno, do la parola all'avvocato Iantorno solo perché è di fianco a me, e poi vi prego di passare la parola ai suoi competitors, e poi dopo invece per le altre risposte facciamo rispondere non sempre soltanto il primo. Certo. Ricordiamoci la famosa The Rule di Giampaolo Rosso, risposte brevi, concise, mirate su. Mi ripeti la domanda, però adesso l'ultimo preambolo cancellata. La domanda di Marta, che peraltro è qui presente, la vedo lì, potete rivolgere la voce, ma non si arriva su col microfono, se volete urlare. La partecipazione dei cittadini. In che modo viene tutto incontro alla partecipazione dei cittadini? Prego. Grazie e buonasera a tutti. Sul tema della partecipazione, che sicuramente è un tema centrale, importante della politica nazionale e cittadina, sicuramente durante questo mandato, io sono, come diversi di voi sapranno, sono consigliere comunale, in effetti sto dicendo durante la campagna elettorale che l'opposizione indubbiamente ha fatto quello che poteva fare, ha lavorato, ha prodotto alcuni risultati sicuramente positivi, magari non noto a tutti. Affermo pure che se dovessimo darci un voto, sicuramente io non darei il massimo dei voti, per tanti motivi, sia perché nessuno di noi è perfetto, sia perché magari le esperienze non sono complete, non sono mature, ma anche perché quello che sostanzialmente un po', diciamo, ha difettato è stata la partecipazione. Cioè, quello che noi stiamo vedendo durante questa campagna elettorale, che a me fa molto piacere naturalmente, è appunto la vostra partecipazione, gli stimoli, le domande che vengono fatte, che sicuramente stanno arricchendo anche questa campagna per le primarie. Ove ci fosse stata durante il mandato, probabilmente alcune insufficienze o manchevolezze non le avremmo ottenute. Il futuro, voi come sapete, dal prossimo anno saranno cancellate le circoscrizioni che sono, sia pure nei limiti in cui poi si sono evoluti negli ultimi anni, sono sicuramente dei momenti importanti di partecipazione e di contribuzione anche a quella che è l'attività amministrativa. Ora è evidente che noi su questo abbiamo, possiamo avere delle idee precise e anche poterle esprimere sotto, diciamo, sotto un profilo anche di regolamentare. Io sono dell'idea assolutamente che vanno ricostituite le circoscrizioni, sia pure ovviamente nei limiti in cui la legge lo permette, onde consentire ai cittadini, ai quartieri, alla città di partecipare alla elaborazione della politica amministrativa. Ditemi quanto mi devo fermare, potrei fare degli esempi concreti, ove ci fosse stata la partecipazione noi avremmo potuto avere dei risultati. Mi riferisco per esempio al piano di governo del territorio, qui è mancata del tutto la partecipazione della città in termini concreti, è mancata la partecipazione delle persone competenti, degli ordini professionali, della città nel suo insieme. Ove ci fosse stata, e ci deve essere, perché ancora il PCT non è arrivato in Consiglio Comunale, ci dovrà essere, questo è un punto fondamentale, centrale, non solo del futuro, ma anche del futuro immediato, anche con i consiglieri, noi ci impegniamo in tal senso. Quindi la partecipazione dei cittadini alla elaborazione, alle modifiche del PCT che è stato, che verrà fuori quanto prima, sicuramente sarà la condizione perché il piano urbanistico della città sia il migliore possibile. Quindi dal punto di vista concreto di partecipazione, per esempio il tema dell'immigrazione è un tema sul quale io incentro anche la mia attività politica. Voi sapete che a Como vi sono 12.000 immigrati che quindi non sono cittadini italiani ma sono residenti, lavorano, sono totalmente separate dalla vita politica, amministrativa, culturale, sociale della città. Si tratta di individuare subito, io propongo il tema della consulta, il modo come far partecipare circa il 12%, il 13% della popolazione a quella che è la vita cittadina, è condizione di buona amministrazione ma sarà anche condizione di integrazione, di conoscenza, di sviluppo culturale e civile della città. Prego, Mario Lucini. Sul tema della partecipazione credo che si debba un po' ricominciare da zero. Come è già stato detto, le circoscrizioni non ci saranno più, di fatto erano state già uccise col maggioritario, con l'introduzione del sistema elettorale maggioritario nel 2002, per cui di fatto sono sopravvissute un po' agonizzando in questi ultimi anni, ma sicuramente non c'è il clima che c'era quando sono nate le circoscrizioni come seguito dei consigli di quartiere, il clima degli anni, fine anni 70, inizio anni 80. Quindi per rivitalizzare il discorso della partecipazione sicuramente c'è bisogno anche di un impegno formativo e di coinvolgimento da parte dell'amministrazione. Credo che gli strumenti per attivare questa partecipazione debbano essere costruiti man mano vedendo anche le risposte. Si potrebbe pensare di ricostituire dei consigli di quartiere, per esempio, ma bisogna capire anche la possibilità di rendere efficaci questi strumenti. Io ho visto esperienze molto interessanti sotto i vari aspetti che possono riguardare l'attività di una pubblica amministrazione sperimentati in altre città, dai percorsi di bilancio partecipato che sono stati attivati in tante cittadine anche della Lombardia. La cosa più recente che ho visto è l'esperienza del percorso effettuato da San Giuliano Milanese, con una serie di incontri, con una serie di strumenti attivati sia a livello di rapporto diretto con seminari sul territorio, nei quartieri, sia a livello di attivazione degli strumenti informatici, quindi apertura di portali per favorire la partecipazione. Lo stesso vale per il discorso urbanistico, quindi anche sollecitando su aree tematiche i cittadini a portare il loro contributo. L'esempio che abbiamo avuto dalla costruzione del percorso del piano di governo del territorio del comune di Como sicuramente è un esempio negativo in questo senso. In altri comuni sono state sperimentate, credo che dovremo sperimentarle perché non credo che si concluderà con questa amministrazione questo percorso urbanistico anche sul nostro territorio. Lo stesso vale per il coinvolgimento dei giovani e per la costruzione di progetti in ambito culturale. Mi hanno segnalato, mi hanno fatto conoscere percorsi molto interessanti fatti dalla provincia di Milano, dall'assessora Benelli, che adesso è assessore della giunta Pisapia, che ha costruito questo percorso con i comuni della periferia milanese al contorno di Milano, Metro Cult, c'è anche un portale interessante che può essere visto su internet, dove c'è l'affiancamento dello strumento informatico con il contatto diretto con le persone, quindi la capacità di incontrare, mettere in rete le associazioni per costruire progetti culturali condivisi. Molto spesso c'è anche questa difficoltà tra le associazioni di ritrovarsi, di condividere percorsi comuni, per cui ci sono tante possibilità, abbiamo tanti esempi da poter sfruttare per far tesoro delle esperienze che sono già state sviluppate in altre zone vicine a noi. E quindi grazie Mario Cini, scusate perché non sarebbe, se non ci fosse il soldo in topo non sarebbe bello. Allora, adesso io lascerò parlare anche Giuseppe Trozzi e anche Bruno Magatti allo stesso tempo che hanno parlato loro, perché va più lento di quello che è previsto. Voi almeno fanno una prima risposta in cui possono dare un po' di tempo di informazioni e poi si abitueranno a Giampaolo di contare 120, non vedo in questo momento un'altra soluzione, se volendo sì, che così togli la tensione, no? Perché è meglio così. E quindi ripasso la parola a Giuseppe Trozzi, grazie. Grazie. Ma i modi della partecipazione, prima dei vari modi, io penso che sia importante sottolineare che la premessa fondamentale è una vera volontà di andare a cercare e a promuovere la partecipazione da parte dei cittadini. Una volontà che si deve basare, a mio avviso, su un amore reale per la democrazia e per l'ascolto dei nostri concittadini, ma anche per qualcosa di più utilitaristico. Io penso che fare appello alle idee, alle conoscenze, alle competenze delle altre persone sia il modo più intelligente per arrivare a dei risultati interessanti. Ed è anche un modo, secondo me, importante per riuscire a creare maggiore coesione all'interno di una comunità, nel senso che soprattutto in momenti in cui si tratta di fare delle scelte anche difficili, laddove queste scelte vengono discusse e confrontate fra le persone, è più facile che ci sia la possibilità poi di condivisione e di accettare anche rinunce e delle scelte a scapito di altre. Metodi, secondo me il primo elemento fondamentale è la comunicazione, una comunicazione che proprio sia capillare attraverso tutti gli strumenti che abbiamo, con la tecnologia abbiamo a disposizione, poter fare arrivare un'informazione in modo semplice e diretto su che cosa è in discussione, su quali sono le scelte attorno a cui si sta decidendo. Quindi comunicazione, organizzazione e sollecitazione di momenti attivi di partecipazione che possono essere i consigli di quartiere da ricostruire indipendentemente dal fatto che la norma li ha aboliti, a comitati aperti alla popolazione di un certo ambito territoriale piuttosto che a delle categorie. Penso che in modo particolare sui temi dei giovani o degli stranieri sia importante che ci siano delle forme di consultazione organizzate proprio con l'obiettivo di riuscire a far parlare le persone dei problemi che li riguardano, ma partecipazione che può estendersi e deve estendersi anche alla discussione preliminare attorno agli strumenti di programmazione economica che il comune si deve dare, anche qui con una fase che preveda l'informazione, la discussione delle cifre che vanno a bilancio, delle scelte che poi dovranno essere sostenute, degli investimenti che dovranno essere sostenuti dalla scelta comunale, non escludendo la possibilità di prevedere che alcune cifre, alcune voci per alcuni progetti ci sia proprio espressamente la preventiva. Ci sia quasi una sorta di decisione che viene condivisa preliminarmente con la categoria a cui sono destinati. Io penso che in modo particolare con i giovani su alcune iniziative che li riguardano questo possa essere un modo da rendere concreto. E non ultimo, la partecipazione vuole anche dire andare insieme a verificare poi quali sono i risultati che con queste iniziative andiamo ad ottenere, perché mi sembra francamente che questo sia uno degli elementi più carenti. Non escluderei anche dei momenti referendari. La città di Como si appresta a delle scelte difficili proprio legate ai problemi cronici che abbiamo alle spalle, perché no, vedere di sentire direttamente la popolazione su alcuni passaggi. Grazie. Allora, magari è stato detto, non ripeterò le cose dette dai miei colleghi che condivido, sento di aggiungere qualcosina. Allora, ascolto, decisione, controllo, rendicontazione. Credo che il percorso debba essere questo. Sul tema dell'ascolto, noi abbiamo nella struttura del Comune di Como alcune strutture di ascolto già presenti e usate pochissimo. Sono le consulte. In realtà esiste una consulta dei servizi sociali del terzo settore. Io credo che lo strumento della consulta, che è stato fatto, come dire, addormentare nel tempo, abbandonato, debba invece essere replicato come primo mezzo per ricostruire una partecipazione. C'è un grande bisogno di partecipazione, ma dobbiamo dire che la partecipazione non è una cosa che si improvvisa, è una cosa che si deve anche un po' costruire strutturando dei percorsi. Quindi la prima strada certamente è quella dell'attivazione delle consulte della cultura, dello sport, del commercio, metterci quello che volete voi, chiunque abbia temi importanti da proporre e da strutturare, credo che avrà certamente ascolto. E dico di più, personalmente intendo evidentemente, nel momento in cui dico questa cosa, anche impegnarmi ad esserci, non la consulta che è ascoltata da qualcun altro, ma la consulta che in qualche modo io sono interessato ad ascoltare. Secondo tema, la decisione. È stato detto il referendum. Noi abbiamo un regolamento per il referendum che risale agli anni 90 e questo referendum va riformato immediatamente dicendo due cose. Primo, che si elimina il quorum. Secondo, che l'amministrazione si impegna a fare quello che il referendum ha detto. Oggi abbiamo un quorum inarrivabile. Inarrivabile perché il 40% degli aventi diritto equivale, quando votano il 70% degli elettori, a oltre il 60% quasi, insomma, una cosa mostruosa. Quindi via il quorum, diciamo ai cittadini, la partecipazione è libera, ma chi partecipa si assume la responsabilità di farlo, chi non vuole farlo, pazienza per lui, e noi ci impegniamo, e lo mettiamo nel regolamento, a fare quello che lì sia stato deciso. Terzo tema, il controllo. Noi abbiamo degli appalti, dei servizi dati in gestione. Chi di voi conosce i capitolati, che so, della raccolta dei rifiuti? Quante volte dovete aspettare il passaggio del tram davanti, l'autobus davanti a voi, a quella fermata? Chi gestisce delle strutture pubbliche? Che temperatura devo trovare nella scuola quando accompagno il mio bambino al mattino alle 8? Allora, tutto questo deve portare tutti a essere consapevoli di quelli che sono gli impegni assunti nei confronti nostri, di noi cittadini, e rendere ciascuno di noi capace di essere partecipe del controllo. Non significa che se io mando un sms, perché la strada sarà certamente quella, o porto uno scritto nell'ufficio, quello viene accantonato. Noi ci impegniamo evidentemente alla verifica e al ritorno della questione. Ultimo punto, la rendicontazione. Io credo che dobbiamo assumerci tutti quanti insieme l'impegno a dire che se uno di noi sarà sindaco di Como, si impegna periodicamente, non dico periodicamente, non dico tutte le settimane, neanche ogni 15 giorni, ma simbolicamente con una frequenza accettabile a incontri pubblici con i cittadini in cui esporsi alle critiche e alle obiezioni. Grazie mille. Allora, dobbiamo farcela andare, adesso pare che il timer funzioni giusto, per cui vi ricordo anche che questo arriva tutti e quattro, i due minuti sono un limite ma non sono un traguardo, per cui se riuscite a esaurire, no è vero, se riuscite a esaurire quello che volete dire prima, non penso ci sia niente di cui, anzi vuol dire che le idee sono chiare, precise, più veloci, e come ho fatto adesso, se sforate di 10 secondi, 15 secondi, ho la fortuna di non chiamarmi Mario Pastore, per cui non sto lì a bloccarvi di botto. Sono felice di vedere che intanto la sala si è ulteriormente riempita, perché presumo abbiate tantissime domande, vero che c'è già la prima, Enzo Dal Tuono, che sì. Padrone di casa, peraltro. Vabbè, presidente dell'ACI. Sì, sto sul tema. Come ben sappiamo, Como è molto povera e sempre più povera di spazi per la cultura, per l'intrattenimento. Attualmente esistono solo due sale, l'Astra e il Gloria, entrambe in grande sofferenza. La domanda è: pensate che il sostegno a queste esperienze, affinché l'Astra possa continuare a essere il cinema che è e il Gloria ritornare a essere la sala polifunzionale che è stata fino a qualche mese fa, siano delle priorità? Ovvero sia meglio intervenire sull'esistente per fare in modo che continui ad esistere, piuttosto che ipotizzare mega progetti che poi magari, se vedono la luce, la vedono tra un po' di anni. Altra domanda sul fronte sportivo, chiedo: il palazzetto di Mugiò che fine farà? Bene, allora, come avevo detto prima, adesso io cedo la parola a Mario Lucini e poi ritorniamo. Sul discorso dei grandi progetti credo che sia abbastanza facile la risposta, visto l'esito che hanno avuto tutti i grandi progetti o presunti tali avviati in questi anni dall'amministrazione. Quindi credo che questo sia il momento di guardare le cose concrete, di guardare le cose vicine alle persone, le cose più concretamente attuabili. Quindi, pur tenendo conto del fatto che non può essere l'amministrazione comunale a creare il cinema piuttosto che il teatro, sicuramente una serie di misure che evitino di agevolare trasformazioni in altro, vediamo cosa è successo alla storia, anzi cosa sta succedendo in questi giorni, evidentemente è successo perché c'è una difficoltà comunque dal punto di vista della redditività delle sale cinematografiche in questo momento, ma c'è anche un sistema di premialità urbanistica che rende molto più vantaggiosa la trasformazione in altro piuttosto che il mantenimento di determinate funzioni. Quindi credo che, per quanto compete all'amministrazione, evitare di dare risposte premiali per una trasformazione in altro di strutture in grado di rappresentare spazi culturali sia fondamentale, anzi al contrario, cercare di salvaguardarne la continuità e la possibilità di erogare servizi. Per quanto riguarda le strutture sportive, il progetto del villaggio dello sport era un progetto che non aveva le gambe, adesso pare che improvvisamente venga riportato in consiglio comunale, perché è stato sospeso per 4 mesi, non so per quale motivo verrà riportato, è sicuramente un progetto sovradimensionato rispetto alle esigenze della città, è inattuabile. Questo non significa che si debba mandare a rotoli quello che c'è, per cui devo dire, già in quest'ultimo bilancio ho presentato un emendamento per almeno mettere 100.000 euro per rendere funzionale il palazzetto nelle more di una sua sostituzione, cosa che è stata bocciata, ma comunque la dimensione di un palazzetto per Como non è quella dei 5.000 posti con quello che c'è intorno tra Cantù e Carnate, ma è quella dei 600.000 posti, quindi sostituzione, ma nel frattempo non facciamo andare a rotoli quel che c'è. Grazie, Gisele Tozzi. Ma la domanda pone giustamente un problema di priorità per le sale cinematografiche. Io sottolineo solo che il numero di sale cinematografiche presenti in una città è uno degli indici che serve a stilare le graduatorie della qualità della vita nel nostro paese, e noi siamo appunto penalizzati da questo. Ma non solo, io ho constatato il gazebo, chiediamo alla gente che passa le loro idee sulla città, e credo che l'indicazione del cinema, più dateci un cinema, dateci più cinema, sia una delle richieste più gettonate. Quindi indubbiamente bisogna partire dal salvaguardare come minimo l'esistente, salvaguardare l'esistente ed evitare che anche queste strutture vadano incontro forzatamente a dei periodi di chiusura. Nello stesso tempo, dato che il fabbisogno è così grande, io penso che si debba anche avviare dei progetti più ambiziosi e grandiosi, e che quindi la città di Como nel suo complesso possa veramente puntare non solo a non perdere quello che c'è, ma a progettare qualche cosa di più consistente, che sia possibilmente un polo attorno a cui una serie di attività culturali possono essere sviluppate. Lo stesso discorso vale per l'aspetto sportivo, non ripeto quello che ha già detto Lucini. Credo che anche in questo caso si tratti di pensare ad utilizzare e distribuire meglio delle opportunità sul territorio, sempre in una logica di evitare i mega impianti che non sono quelli di cui la città e i cittadini di Como hanno bisogno. Un esempio solo, un ripensamento dell'utilizzo dello stadio Sinigaglia in una versione che non sia solo ad esclusivo utilizzo del calcio Como, ma possa ospitare eventi attività sportive, più ancora che eventi sportivi, attività sportive più estese e anche eventi di altra natura, non sarebbe male. Allora, io trovo che in questo tema che si è posto il senatore c'è una cosa molto interessante di fondo, cioè si scopre che ci sono delle attività, per esempio il cinema, che non sono una cosa pubblica, ma che sono un'iniziativa tra virgolette di privati, che hanno un grande interesse collettivo, cioè ci sono dei valori collettivi anche per cose che qualcuno fa dentro la città. E tra l'altro è curioso che i due esempi, cioè che gli esempi, proprio quello che siamo adesso, siamo su questo, così non andiamo a toccare altro, si è legato a un privato che è un privato collettivo, cioè non è un privato, ma andrebbe bene ugualmente, non sto dicendo. E questa è una cosa che ci deve far riflettere. Noi vediamo da un'epoca nella quale è sembrato che la somma degli egoismi potesse fare in realtà il bene di tutti. Oggi forse, e questo mi sembra lo spunto che ci dà Enzo, forse riusciamo a capire che bisogna ricominciare a collaborare. Cioè semplicemente dirci che quello che lui sta facendo non lo fa soltanto perché gli torna conto, ma forse quel tornaconto è un tornaconto di tutti. Questa cosa deve diventare però compresa dalle due parti. E in questo senso io credo che dentro ovviamente i limiti che le leggi ci danno, e ovviamente c'è anche una legge di mercato che deve rendere possibile la concorrenza e che tutti siano ugualmente partecipi delle attività sul territorio senza particolare situazione di privilegio, però io credo che tutte le forme di collaborazione a sostegno soprattutto delle iniziative che hanno a cuore la promozione della cultura, la promozione dei momenti di socialità debbano essere realizzati. Sulla questione del palazzetto la penso esattamente come Mario Lucini, cioè io sarei contento se l'impresa di Mugiò si fermasse, perché adesso non abbiamo tempo di raccontarla, ma io credo che sia una grandissima imposizione tipo di rendita messa sulla città per i prossimi n anni. Noi abbiamo bisogno di cose piccole distribuite, e io continuo a insistere che il luogo nel quale andare eventualmente a realizzare piccole cose, e dico cose leggere, è dentro il San Martino legato all'università, che è il nostro investimento. Grazie, buon avanti. Marcello Iantorno. Dunque, no, riguardo alla capacità, grazie da tuono, perché riesce l'Arci ancora ad offrire a questa poverissima città dal punto di vista delle strutture culturali la possibilità, io sono un frequentatore come tanti altri ovviamente di questa sala, indubbiamente la necessità che l'amministrazione comunale si raccordi anche a queste esperienze, a questa associazione, mi sembra fondamentale. Poi i modi come portare avanti un'eventuale intesa o comunque sostegno reciproco ovviamente sarà determinato appunto dai soggetti che si impegneranno in questo senso, ma questo mi sembra imprescindibile. Merito anche al glorioso Astra, perché nonostante le sue condizioni strutturali consente diciamo a decine di migliaia di persone di poter ancora vedere qualche buon film in una situazione di estrema diciamo malthusianesimo culturale da questo punto di vista, no? Credo che se l'accordo di programma va avanti con riferimento a Piazza Cavellata si parla della riapertura di 6 sale, ce n'erano 9 prima, quindi questo probabilmente ci porrà poi questioni un po' di tipo diverso, comunque magari sarà oggetto di valutazioni successive. Riguardo alla situazione delle strutture culturali a Como, naturalmente la situazione è quella che è, io la ritengo estremamente grave, perché sia le condizioni di Villa Olmo, sia il tema del Politeama, che è un tema che per noi è stato centrale ed è centrale, perché noi riteniamo che il recupero funzionale del Politeama è una condizione imprescindibile perché Como possa vivere esperienze di tipo diverso. Voi sapete che vi sono due progetti importanti sul Politeama, della Facoltà di Ingegneria del Suono e della Facoltà di Conservatorio di Como, e noi più volte abbiamo fatto delle riunioni in questo senso, e anche per quanto riguarda Villa Olmo, Villa Olmo è in condizioni fatiscenti, non è la Guggenheim di Como. Grazie. Allora, quando io mi alzo vuol dire che stiamo entrando nei 30 secondi di garanzia per finire il discorso. Cioè, quando rotolo in avanti, il segnale. Si vede molto. Cioè, che io mi alzo e tu seduto non è così. Capisco che non si vede tantissimo. Giampaolo, hai già un altro intervento? Prego. C'è il microfono, quello col pulsantino piccolo, drammatico, da accendere, ma ecco che forse ci viene in soccorso. Allora, se... Prego, se vuoi usare questo. Sì, dunque, buonasera. Allora, io vorrei chiedervi semplicemente così una cosa. Certo che in una città pensare di avere dei teatri chiusi, questo è uno scandalo, cioè proprio uno scandalo gravissimo. Che venga sistemato, si parli di sistemare il Politeama, una cosa molto bella, si fa da tantissimi anni. Villa Olmo spesso mi vado a fare delle rappresentazioni, è così da più di 30 anni, conciatissimo, ma proprio a livello di non poter lavorare anche dal punto di vista tecnico, perché l'ultima volta sono saltate le luci, sono arrivati i pompieri, ci sono tutti i fili fuori posto, ma questo rientra un po' nel discorso degli spazi che faceva Enzo, perfetto. Io vorrei chiedervi una cosa, ma talmente semplice, magari sembra anche un po' banale. Ognuno di voi proprio, cosa intendete voi personalmente come cultura e qual è per voi un progetto culturale? Perché uno dice un progetto culturale, i progetti culturali, siamo pieni di progetti, ce ne sono miliardi di progetti, ma un progetto culturale che vada a coinvolgere le persone, perché la cultura non è un qualcosa d'élite, la cultura è un qualcosa che appartiene a tutti e che dovrebbe essere diffusa. Quindi qui abbiamo anche un problema capillare di diffusione della cultura, perché parlare del progetto culturale è molto bello, però bisogna andare indietro, quello dopo, prima c'è qualcos'altro, credo, ecco. Semplicemente. Grazie. Faccio una virgola, cioè è inevitabile che in un posto come questo la maggior parte, spero anche delle curiosità, riguardino un posto come questo, cioè i poli di cultura che ci sono, che sono carenti a Como. E quindi adesso invece è il turno di Gisella. Domanda impegnativa. Un progetto culturale per me vuol dire dare a ciascuno la possibilità di coltivare il proprio bisogno di conoscere, di sapere, di espandere la propria personalità, di poter ampliare le proprie capacità, le proprie potenzialità creative, in modo tale da poter poi fruire anche di quello che altri prima di noi hanno già realizzato. Quindi un progetto che secondo me deve partire proprio dall'educazione dei bambini, facendo crescere questa capacità che non è solo quella di tipo razionale, che normalmente viene coltivata, ma proprio di espansione complessiva della propria personalità, appunto arrivando a scoprire al proprio interno anche delle capacità che se non coltivate uno non sa mai di possedere. Coltivarle nei bambini e poi riuscire a dare delle occasioni perché questa continua ricerca possa continuare continuare successivamente. A questo punto delle iniziative di carattere culturale, di eventi culturali, diventano qualcosa che va ad aggiungersi, a soddisfare questo bisogno, che possono essere assimilate, fatte proprio, e non semplicemente una manifestazione alla quale con maggiore o minore convinzione si va perché fa fino, perché è bello farsi vedere che si frequenta certi ambienti. Allora, questa domanda facilissima, io tenterò una risposta per non essere banale, però mi è venuto in mente Pasolini. Pasolini diceva una cosa secondo me interessante rispetto al tema della cultura. Lui diceva: se prendiamo un analfabeto, prendiamo un bambino piccolo fino ai primi anni di scuola, questa è una persona, come dire, ricca, piena di positività, di... Poi succede che la gente entra in quel mare magno della cultura spalmata tra di noi dai media e dai giornali, mi si permette anche di mettersi questi, e ovviamente viene fuori quel grigio pensiero, permettetemi questa neologismo, questo grigio pensiero che uniforma tutto, in cui non si distingue più nulla. Allora, per me progetto culturale è immaginare una città nella quale i cittadini vengono messi in condizione di pensare e non di gridare semplicemente, e non di lanciare qualcosa contro qualcuno. Per fare questa cosa servono le intelligenze, oltre che le strutture e gli spazi. Io ho lavorato per molti anni nella scuola, e la scuola deporta continuamente pullman di ragazzini, giustamente, a Milano, per farli attingere, insomma, a qualcosa che qui non si trova o si fatica a trovare, perché magari qualcosa si riesce a stanare essendo attenti alle cose che succedono. E progetto culturale significa, secondo me, tenersi accanto le persone che pensano e lavorare con loro per fare insieme un po' di strada con la città. Dunque, intanto facciamo i conti con la realtà, quindi ragioniamo su questa domanda assolutamente impegnativa in termini concreti e reali, non ci sono mezzi. Però io credo che la soluzione anche possibile, immediata, è quello di raccordare, unire, mettere a rete tante realtà che, a come esistono e sono numerose, la sua e diverse altre, arte, la Casa della Poesia, l'autunno musicale, parolario, eccetera. Quindi noi di associazione culturale ne abbiamo, ma guardate, la caratteristica è il fatto che ognuna lavora per i fatti propri e non vi è nessun raccordo, nessun rapporto con tutte le altre, quindi men che meno anche con l'amministrazione, quindi l'università e così via. Quindi mettere a rete, creare gli stati generali della cultura, quello deve essere il luogo della riflessione e della elaborazione anche di un progetto culturale per la città. Creare percorsi che sono possibili. Noi abbiamo una città bellissima dove vi sono quindi delle situazioni di bellezze paesaggistiche uniche al mondo, anche situazioni artistiche, architettoniche uniche al mondo, quindi creare percorsi culturali. Anni fa io mi sono fatto portatore di un progetto di creare un percorso culturale che partisse dalla zona dove attualmente vi è il Parco Santeria e arrivasse fino alla zona lago, dove vi sono dei disegni e dei progetti di Santeria magari realizzati da Terragni. Quindi pensare di recuperare sotto questo profilo, anche questa è cultura, valorizzare il rapporto tra amministrazione comunale e università, assolutamente allo stato attuale inesistente, valorizzare il ruolo del centro volto. Noi abbiamo un centro qui di caratura internazionale col quale l'amministrazione comunale, io sono consigliere da 5 anni, non abbiamo mai speso neanche un minuto di riflessione, di dibattito di quale possa essere o poteva essere il rapporto tra il comune e il centro volta. Voi sapete che il centro volta vi siedono anche dei primi Nobel, eccetera. Quindi voglio dire, da questo punto di vista si tratta poi di valorizzare Villa Olmo, farla praticamente il Palazzo Reale di Como, ovviamente spersonalizzando il ruolo dell'assessorato alla cultura e quindi valorizzando quelli che sono gli uffici comunali in un'opera di raccordo e di coordinamento. Grazie. Marucci? Sì, diciamo che non ci sono grandi differenziazioni rispetto a quello che hanno espresso i miei colleghi, direi. Secondo me è il comune, più che avere un progetto culturale proprio, per promuovere la cultura nella propria città deve creare le condizioni perché la città, nelle sue varie componenti, nelle sue varie intelligenze, nelle sue varie forme di creatività, possa esprimere cultura. Credo che il compito principale dell'amministrazione comunale sotto questo aspetto sia quello, prima di tutto, di salvaguardare e preservare le ricchezze dal punto di vista monumentale, architettonico e storico che ha. Dopodiché deve porsi come facilitatore, non come coercitore, come facilitatore della creazione di una rete di percorsi di offerta culturale della città, valorizzando tutte quelle che sono le risorse che spontaneamente emergono dai cittadini e dalle loro forme associative. Credo che questo sia l'obiettivo principale che un'amministrazione debba porsi, più che pensare di far cultura in proprio, che mi sa un po' di mincul pop, mentre invece è la ricchezza della città che deve essere fatta emergere. Grazie. Grazie per aver risposto a mi viene in mente Tournai, finché forse non sbaglio, ho visto qua quando lei dice non ce la faccio, la cultura in 30 secondi non ce la faccio, per condensarla in uno spot che non è veramente semplice. Gianpaolo, hai vedo che... Sì, ho già il microfono. Quando mi sposto perché qua ti ho... Ah, no, 93 anni. Antonio. Un complotto. Se vuoi raggiungerci ti ospito con questo microfono. È una discriminazione, è un attacco. Troppo. Con dei... Sì, no, sì, sì. Sì, sì, si sente. Ok, ma campedino. È un'antica questione che io mi sono legato al dito 30 anni fa circa, perché mi è capitato di dover portare degli studenti tedeschi che volevano andare a fare il bagno, alla fine li ho portati a Chiasso. Ma qual è il problema? È che per capire come è andata la storia di un paese, di una città, a volte è molto utile osservare come sono utilizzati i territori, cioè sulle colline più verdi è finito. No, sono... Scusate di venire qua, perché siete anche disturbato, ma questo non ci arriva. Vieni. Vabbè, insomma, adesso non voglio fare... Non abbi timore, non è recibile. No, dicevo che per capire come è andata la storia di una città bisogna anche guardare come sono utilizzati dei siti unici e irripetibili come il nostro litorale del lago. Io ho dovuto prendere degli appunti brevemente perché non vorrei dimenticarmi di qualche pezzo. Allora, partiamo dal villaggio, dal Lido di Villageno, dove c'è una micro piscina appena sufficiente a un paese di 5.000 abitanti. E io lì, gli studenti che accompagnavano, non li ho potuti portare perché era piena. Dopodiché proseguiamo e troviamo l'Aereo Club, che è bellissima cosa, ma riguarda non molti cittadini comaschi. Poi andiamo avanti, troviamo la... Vabbè, a parte che lì sono messo quello stadio, va bene. Troviamo la motonautica, anche questo bellissimo posto, ma anche questo riguarda non molti cittadini. Poi c'è il circolo vela, tutta roba privata ovviamente, no? Cittadinanza non la usa poi. Poi troviamo la canottieri. La canottieri è già più utilizzata e c'è anche una piscina. Guarda caso c'è una piscina. Dopodiché ci sono due cose ineliminabili come il monumento ai caduti e il Tempio Voltiano, per carità. Dopo ci sono due porti, Porto Marina 1 e Porto Marina 2, poi c'è la piazza Cavour, poi c'è un'altra marina per le barche lungo via Regeno e poi c'è Villageno con un'altra piscina. A questo punto la domanda che io pongo ai candidati è... Pochi secondi per forza. Ecco, ho saltato volutamente il Lido di Villageno. Perché il Lido Villageno non ha una piscina, è un lido pubblico dove i turisti o questi studenti che accompagnavano sono andati lì e dice per fare il bagno puoi fare la doccia, perché a Como ci sono due lidi, uno ha una piscina microscopica e l'altro non ha niente, ma sono 30 anni che non ha niente. Io mi chiedo, Per quanto riguarda queste concessioni, chiaramente non posso pensare che nessuno di loro possa ritirare le concessioni a tutti questi privati, ma almeno un po' più di trasparenza sulle concessioni, cioè quanto pagano. Io so per certo che alcuni di questi privati che hanno queste concessioni non pagano, oppure pagano con dei ritardi paurosi. Ecco, vorrei che perlomeno un impegno sul fare in modo che Lido Villageno alla fine, magari dopo 30 anni, avesse una piscina. Non dico come quella di Villa Destica, per carità, però una piscina è. Grazie. La domanda, cioè, comunque, Bruno Magari. Allora, sul tema, questo argomento di Tajani è conosciuto anche perché, appunto, come diceva lui, lo replica da parecchio tempo. Io voglio fare un'aggiunta: tra la canottieri e la motonautica ci sono dei parcheggi riservatissimi, c'è anche la catenella, in cui possono parcheggiare il presidente, il consigliere e quant'altri, per cui addirittura ci riserviamo il posto con tanto di catena, verificare per credere. Quindi il tema è più che evidente. Noi ci siamo trovati recentemente, visto che non era una domanda, mi permetto di dire questa cosa, a discutere di una modifica rispetto alla struttura della motonautica, che è di Mantero, quindi è un'opera del razionalismo, nel quale è stata proposta una copertura, la trasformazione di una terrazza in una struttura chiusa, appunto, per... E in quell'occasione abbiamo avuto modo anche di discutere in merito alle concessioni, al fatto che appunto queste sono aree pubbliche date in concessione non a dei privati in senso stretto, ma dei privati collettivi, i quali dovrebbero garantire la fruibilità e l'accesso al lago anche agli altri privati attraverso forme diverse. E naturalmente la risposta ti viene data, per esempio, che i canottieri fanno: se tu vuoi mandare il ragazzino, mandare tu al mare, sei sempre ben accetto, ovviamente a condizione che ti iscrivi, eccetera eccetera. Allora, questa è una questione delicatissima legata effettivamente alla storia della città, e io lo dico francamente, sul fatto che le concessioni debbano in qualche modo essere ripensate sono d'accordo con Tajani. Dico di più: la vicenda della Comomoto, che aveva accumulato debiti nei confronti dell'amministrazione per anni, e sono stati poi sanati a fronte di interventi migliorativi della struttura e quant'altro. Quindi questa è una questione vera, e io lo dico con grande franchezza che io personalmente non ho nessuna timidezza ad affrontarla qualora domani ci trovassimo nella posizione di fare. Ma il tema delle concessioni è un tema centrale da qualche settimana, sul quale anche la stampa locale di ritorno e ha scoperto, devo dire merito loro, senz'altro, ha scoperto una giungla, una situazione di dimenticanza, di debiti non pagati, di contratti scaduti e non rinnovati, situazioni dove effettivamente bisogna disboscarle. Quindi il compito centrale di una nuova amministrazione è quello di ricondurre il tutto ad una gestione che sia effettivamente efficiente, efficace, e che effettivamente non solo valorizzi i beni che sono beni comunali, ma anche crei delle situazioni di parità di trattamento che attualmente non esiste. Ovviamente il passaggio poi da una situazione di questo tipo a una situazione di assoluta razionalità probabilmente richiederà una riflessione, perché sennò verremmo noi a toccare degli interessi, diciamo, che da questo punto di vista pensiamo ad alcuni chioschi, non hanno alcuna responsabilità. Con riferimento alla domanda che è stata fatta, il compito del Comune è senz'altro quello di consentire la valorizzazione di beni unici, quali sono appunto questi beni ai quali si faceva riferimento. L'argomento che prima citava il mio collega con riferimento ad alcune situazioni, per esempio in via Quaker, quindi in una delle zone più belle della città, indubbiamente questo l'abbiamo già detto pubblicamente e lo ripeto anche in questa sede, non può essere consentito una situazione intanto di privilegio, perché francamente non è ammissibile, ma neppure anche di privilegio non solo economico, ma anche di uso del territorio comunale, che finisce per privilegiare qualcuno e danneggiare gli altri. Per esempio mi riferisco, oltre alle cose alle quali prima lui faceva riferimento, alla possibilità di poter parcheggiare le auto pressoché a costo, direi, non dico zero, ma sicuramente un quarto rispetto a tutti gli altri parcheggi, in una delle zone dove invece le macchine non devono stare, via Vittorio Merito, via Le Puecher. Grazie. Allora, io parto dalle piscine, in questo caso, sicuramente, visto la situazione del primo bacino del lago, che di fatto non è fruibile dalla città ad oggi, o si riesce in tempi brevi a recuperare un minimo di balneabilità almeno in alcuni settori del lago, o credo che non sia impossibile, anche perché non ho dati precisi, però non mi sembrano costi stratosferici quelli di attrezzare sia Villa Olmo che Villa Geno di piscine galleggianti nel lago. Francamente mi sembra uno degli interventi che possa essere più praticabile in termini anche economico-finanziari. Mi riservo di capire quanto sia effettivo il costo, però non mi sembra una cosa impensabile, e mi sembra, concordo sul fatto che sia impensabile, che una città sul lago come Como non abbia un punto di balneazione in un modo o nell'altro. Sul discorso delle concessioni, vabbè, in realtà la questione è molto antica e non l'hanno scoperta i giornali in questi ultimi tempi. Secondo me anche qui bisognerebbe recuperare una giusta via di mezzo di buon senso, nel senso che queste concessioni sono nate con un intervento di strutture, di associazioni sportive che fornivano e forniscono tuttora un servizio alla città in termini di fruibilità di attività sportive per i giovani e meno giovani. Però man mano nel corso degli anni si sono trasformate un po', almeno alcune di queste, in protettorati di questo o di quell'altro potente di turno. Allora, secondo me andrebbe quantomeno un po' ricondotta alla funzione originaria, sia in termini di compartecipazione alle spese, sia in termini di uguaglianza nel trattamento rispetto ad altre associazioni sportive, e poi non è l'obiettivo quello di buttare fuori tutti. L'obiettivo è quello di rendere più accessibili queste strutture e meno dei nuclei un po' avulsi dalla città, come stanno molto spesso man mano diventando. Ho visto. Nella domanda ci sono due componenti: una è quella della dotazione di spazi e di luoghi, di associazioni in cui fare pratica sportiva, e questo credo che io guardo con favore alla pluralità delle associazioni presenti. Credo che il problema sia quello di allargare la possibilità poi di beneficiarne a un numero molto più ampio di cittadini. Da questo punto di vista si possono anche proporre delle iniziative che consentano ai giovani e ai ragazzi di accedere e di sfruttare queste strutture in maniera più ampia di quello che attualmente viene fatto. Mi sembra una cosa che, quindi, queste presenze dovrebbero essere incoraggiate ed estese. La pratica degli sport acquatici sul lago dovrebbe essere effettivamente una delle caratteristiche della nostra città, non solo per i cittadini ma anche per i turisti. Si possono inventare molte soluzioni. Ripeto, dal mio punto di vista è importante che ci sia una politica che estenda il più possibile la possibilità di utilizzo. Tra l'altro, in uno degli incontri pubblici domenica in piazza, quella promossa dai ragazzi, una cosa interessante che è emersa della serie La partecipazione e l'ascolto sono importanti, qualcuno che passava in quel momento in piazza che segnalava la utilità di alcuni ormeggi di passaggio, perché effettivamente in tutto il primo bacino una possibilità di questo genere non è consentita, non è che ci sia un grande traffico nautico di passaggio, però anche questo potrebbe essere un elemento interessante. La seconda componente della domanda è questa sulle concessioni. Allora, qui mi sembra che non solo sull'aspetto delle concessioni, ma in generale sul piano più ampio della gestione del patrimonio immobiliare di questo comune ci sia una grande confusione, che possiamo chiederci in che misura dipenda da scarsa efficienza, da confusione, scarsa conoscenza proprio di quello che l'azienda possiede o da una volontà di non far sapere esattamente come stanno le cose per favorire qualcuno. Qualunque sia la risposta a questo interrogativo, non c'è dubbio che un'operazione di grande trasparenza, di chiarezza, di pulizia deve essere fatta, e questo credo che sia una delle prime cose per la nuova amministrazione. Grazie. Abbiamo finito il primo giro. Vedo che non ho ancora, perché in genere punto almeno una persona che si addormenta per vedere se la cosa sta andando oltre, invece vedo belli attenti, questa cosa mi fa piacere, è raro perché succede anche nelle mie famiglie. Giampaolo? Diremmo di continuare con una domanda ancora sul largo, che però è una fotodomanda, nel senso che attenzione, giriamoci. Se la leggete tutti quanti, perché è un po' chiaro che ruolo dare al lago come risorsa vera del territorio da promuovere e non da consumare. Questa come domanda, però poi chiederei, prima di prendere un'altra parola, se ne leggiamo un'altra da mail, perché se no ce ne hanno mandate, perché non mi sono lette, non mi sembra bello. Allora io ricomincio il... Non ti si sente già? Se anche altri si fanno avanti per proporre la domanda, ovviamente è possibile anche direttamente. Lì potete andare direttamente a lui, intanto io ringrazio Fabio Cani che si sta prestando a far da timer umano regolando le nostre faccine. Faccio un pelo di melina, così prendiamo fiato, perché non lo so, ogni domanda è comunque, perché stiamo spaziando. Se fino a 30 secondi fa si sta parlando di cinema, poi si parla di lago, poi si parla di piscine, poi si parlerà di altre cose, spero, perché sono tematiche concatenate che messe assieme formano quel puzzle che è la nostra città, di cui in questo momento pare che ci siamo persi circa 30-40 pezzi, il motivo per cui non si riesce a mettere a posto il puzzle in maniera decente. Allora ricomincio il giro, le domande, dovete segnalarle a Giampaolo, che è giù in fondo, ma che ti prendete una qua, però, perché sennò non vedono te. Si vede però. Si vede, perché voi capite da me e da lui che la vita del giornalista è grama, fatta di sedentarietà, molto studio e riflessione, e che per esempio queste tematiche dello sport a noi sono quasi misteriose in certi cancelli. Conosciamo solo i problemi, non i benefici, ma è un paradosso del giornalismo. Cioè io so che non ci sono le piscine, so che mancano i centri sportivi, so che è un problema che affronto mangiando dei muffin. Marcello, io intorno. Sì, la domanda è dunque, no, qual è il ruolo? Il lago naturalmente ha un ruolo centrale nella storia e nella vita di questa città, ruolo centrale che sostanzialmente ora è minacciato, se non di molto ridotto, per le condizioni in cui per le condizioni in cui si trovano le acque, perché molto spesso sono sporche. Anche il progetto di pulizia del primo bacino mi pare che non abbia fatto alcun passo avanti negli ultimi anni, è un accordo mi pare che impegni gli enti locali da questo punto di vista e non si è fatto molto, sia per quanto riguarda poi le condizioni proprio della passeggiata al lago, perché tutti noi sappiamo come da Villa Olmo fino a Villa Geno sostanzialmente la situazione è quella che è sotto gli occhi di tutti. Allora quale ruolo deve avere? Io penso ai luoghi turistici che vi sono in Europa, che hanno l'acqua come componente essenziale del proprio essere, no? Pensiamo alle più belle città europee, per esempio sulla Costa Azzurra, che hanno una dimensione come quella comasca, come Como. Eppure se voi immaginate una città di queste dimensioni, ovviamente come è trattato tutto ciò che si affaccia sul lago, quindi la passeggiata, come è curata non soltanto la passeggiata ma anche tutto ciò che è immediatamente retrostante, e quale attività che vengono svolte anche sull'acqua periodicamente. Allora da questo punto di vista l'obiettivo centrale di Como deve essere assolutamente questo. Ora io non mi soffermo naturalmente sulla questione delle paradie, sono questioni note, ma la condizione imprescindibile perché si chiude immediatamente nel modo migliore possibile, si recupera il fronte largo da questo punto di vista e poi si valorizzano tutte le bellezze che vi sono al cospetto. Per esempio vi è la disponibilità di imprenditori Comas che hanno stanziato 100.000 euro per recuperare tutta la zona che va dal giardino al lago fino all'hangar. Altrettanto vi è uno stanziamento di 800.000 euro per il recupero dei giardini al lago una volta che la passeggiata al lago viene ultimata. E poi c'è il discorso anche del collegamento fino a Villa Orme ed oltre con la cosiddetta passeggiata, il chilometro della conoscenza. Quindi c'è molto da fare, ma sicuramente in termini concreti è possibile farlo. Grazie Marici. Beh, indubbio che questa città deve recuperare un rapporto col lago che l'ha sempre caratterizzata nella sua storia. Di fatto, per un motivo o per l'altro, si è ormai creata una frattura violenta tra la città e il lago. È già stato detto delle condizioni in cui versano le passeggiate che si dipartono verso est e verso ovest su Villa Olmo e Villa Geno, e sembra quasi indelicato parlare della frattura che si è creata proprio nella parte centrale della città. Frattura che comunque vadano le cose, per quello che è già stato realizzato è difficilmente recuperabile, nel senso che quella parte occidentale che è già stata realizzata, con pendenze, con altezze, con dislivelli assolutamente alterati rispetto a quella che era la situazione preesistente, comunque è difficilmente sanabile. Quello che era un alaggio sul margine dei giardini a lago è diventata quella scalinata a 50 gradi che se ne sta andando per i fatti suoi, per cui quella situazione è davvero compromessa e difficilmente recuperabile. Bisognerà studiare come recuperarla, ma difficilmente recuperabile, per cui assolutamente da evitare che avvenga lo stesso dall'altra parte. Dopodiché io credo che un rapporto corretto col lago non significhi anche non usare il lago. Pensiamo anche dal punto di vista energetico la possibilità che ci dà il lago dal punto di vista dello sfruttamento delle pompe di calore, senza comprometterne la naturalità e senza violentarlo, però anche quella è un'occasione di recuperare relazioni efficaci col lago, che è stata sfruttata per ora molto poco. Villa Olmo funziona con una pompa di calore, ma c'è possibilità di estendere. Sul recupero del primo bacino alla prossima puntata, perché vedo che si è alzato. Grazie, Giulio Ritrofi. Il lago per me è la caratteristica centrale della nostra città. Io personalmente sono legatissima, la mia scelta di restare a vivere a Como lavorando a Milano negli ultimi 20 anni è dovuta al fatto che la vista del lago è una cosa a cui non saprei proprio rinunciare, per cui è un elemento importante che credo debba assolutamente essere recuperato e valorizzato. È vero quanto è stato detto, condivido le osservazioni di Mario Lucini su questo intervento che ha sottratto il rapporto fra la città e il suo lago, e sono così amareggiata che non mi rassegno a accettarlo come non recuperabile. Evidentemente saranno scelte difficili da meditare, ma penso proprio che questo ambiente unico meriti un nostro intervento attivo di ripristino e di protezione. Il lago secondo me va vissuto e quindi come anche un elemento che unisce i territori. Va vissuto nel senso di una fruizione del bello, va fruito il lago standoci sopra l'acqua, muovendosi in barca, va fruito attraverso la bellezza delle camminate sulle montagne attorno. Ecco, anche l'elemento della navigazione secondo me può essere una cosa importante. Sono molto preoccupata anche delle previsioni che si fanno che a causa dei tagli a livello nazionale, proprio delle risorse finalizzate alla navigazione, la scarsa, la già ridotta attività della navigazione possa essere ulteriormente contenuta. Ecco, io credo che questi siano degli elementi che noi dobbiamo assolutamente difendere e mantenere per la qualità del vivere nostro e anche per riuscire a costruire attorno a questo ambiente unico che abbiamo a disposizione un progetto di sviluppo e di valorizzazione del nostro territorio anche da un punto di vista economico. L'unica cosa che toglierei, non mi piacciono le corse dei motoscafi, ecco, questa è l'unica cosa che assolutamente allora, come è stato detto all'inizio, non ripeto le cose che condivido perché sarebbe una zuppa. Io voglio aggiungere una parolina alle cose che sono state dette. Un impegno, e riprende anche un po' la cosa che diceva Tajana prima, a un accesso democratico all'aria. Il rischio vero che noi corriamo, lo dobbiamo sapere, è che l'ego sia solo di qualcuno e che non sia di tutti. Questa cosa dobbiamo dirla forte, perché altrimenti, adesso non vi faccio gli esempi, ma anche recentemente abbiamo visto nella ristrutturazione di una casa vicino alla funicolare, subito dopo, lì nel momento in cui si tentava di unificare gli attracchi sui due porti, qualcuno immaginava di poter aver diritto a un pontone tutto suo e chiuso la parete. Il secondo argomento è quello legato al tema ecologico. Noi abbiamo perso il tram, anzi non noi, le amministrazioni che ci hanno preceduto hanno perso il tram per quanto riguarda gli stanziamenti europei sulla depurazione. Siamo arrivati troppo tardi, poi sono arrivati i paesi più poveri di noi, quelli che erano più poveri di noi prima, che ovviamente hanno avuto accesso alle risorse, per cui noi abbiamo ancora quella meraviglia del depuratore che fa quello che può. Cosa vuol dire che fa quello che può? Che quando c'è troppa acqua molto passa e arriva nel lago, e quindi il tema della depurazione, cioè del chiudere definitivamente gli scarichi a lago di tutto ciò che non è depurato e tenere in pugno in maniera forte il ciclo dell'acqua, credo che debba essere un impegno ineludibile della prossima amministrazione. Grazie a tutti e quattro. Gianpaolo. Allora, un'altra domanda che ci è pervenuta per mail da Damiano, che riprende il fatto che talora al Como le elezioni si vincono, perché è capitato, si dice che si sia vinto. Le cronache, ci narrano le cronache, croniche. Ci chiede Damiano, quali prospettive per mantenere i beni pubblici a fronte della nuova legge di stabilità che prevede anche la surroga dei poteri al governo in caso di mancata privatizzazione? Cosa fare per l'acqua pubblica? D'accordo, parla quindi la Maria Lucini. Ma dire così proprio da nulla. No, in realtà su questo aspetto c'è il referendum che in pratica ha rimosso l'obbligo di mettere a gara in termini di bando e accesso e privatizzazione tutti i servizi, non solo quello dell'acqua, ma tutti i servizi erogati dagli enti locali. La nuova legge sullo sviluppo ripropone la privatizzazione di questi servizi, peraltro facendo riferimento alla possibilità di deroga in termini di servizi qualora venisse compromessa l'accessibilità e l'universalità di fruizione degli stessi. Allora, qui si tratta di interpretare come al solito la corretta lettura delle normative italiane che non sono mai molto chiare. Credo che sia abbastanza indubbio che per esempio il discorso dell'acqua possa rientrare nella, o debba rientrare nella fattispecie di servizi per i quali è richiesta il massimo dell'accessibilità e dell'universalità. Per cui credo che non ci siano difficoltà, per quanto posso capire io, poi a questo punto ovviamente su questi temi molto specifici ci sarà bisogno anche di pareri di gente più esperta di me o di ciascuno di noi. Però secondo me sul discorso dell'acqua non dovrebbero esserci problemi a proseguire sulla strada che peraltro è già stata recepita a livello di ATO, di ambito territoriale ottimale nella provincia di Como, che ha portato alla scelta di costituire una società completamente pubblica per la gestione delle acque, e credo che lo stesso possa essere fatto su alcuni altri servizi. Va bene. Grazie. A me sembra che i risultati del referendum abbiano dimostrato con grande ampiezza che l'attenzione dei cittadini su questo tema è molto alto, e la volontà di tutta la cittadinanza è forte nella direzione della difesa di un bene pubblico, di un bene primario come l'acqua. Io credo che sia importante riuscire a continuare a vigilare, perché insomma, la politica nazionale, le norme nazionali non possiamo limitarci a subirle. Insomma, c'è una mobilitazione, c'è un'iniziativa politica, c'è un'azione di contrasto da fare rispetto a norme che possano essere penalizzanti in questo senso, e andare contro quello che è l'espressione, ripeto, molto ampia e condivisa che la cittadinanza ha espressa. Io qui vorrei però anche fermarmi su una cosa che personalmente mi ha molto colpito proprio durante la campagna referendaria, dove principalmente le ragioni della parte avversa stavano nel fatto che la gestione dell'acqua in mano pubblica era una gestione inefficiente che causava sprechi, eccetera. Ecco, io credo che questo sia l'elemento da mettere al centro, perché non possiamo in questo caso, come in tanti altri, accettare questo tipo di argomentazione, che sia solo la gestione privatistica quella che sa far funzionare le cose e sa evitare gli sprechi, in questo caso dannosi, perché l'acqua è un bene prezioso, e quindi la risposta deve essere quella di un impegno molto serio e approfondito proprio in direzione di un buon funzionamento di un bene primario, di un bene pubblico, attraverso una gestione che deve restare nelle mani pubbliche, ma deve essere ancora migliore per efficienza e per capacità di quello che sarebbe in mano privata. Allora, io sono assolutamente allineato ai due colleghi che mi hanno preso sul tema dell'acqua, quindi mi permetto di fare una digressione su questa questione grande che anche in questi giorni, no, la soluzione di tutti i problemi sembra la privatizzazione di tutto. Io lo dico francamente, ci sono alcune cose, vi farò un paio di esempi, che secondo me funzionano soltanto se sono gestite dalla collettività intera. Vi faccio due temi che sono la sanità, che sono la salute, e che sono la ricerca, quella veramente la ricerca to cure, non la ricerca, come dire, come dice qualcuno, applicata. Se voi ci riflettete, questi ambiti funzionano solo perché c'è un interesse generale che comunque è prevalente rispetto ai motivi economici che spingono il privato a fare quell'azione, e sta bene che ci sia, per carità. Alla stessa maniera noi dobbiamo ricominciare questo tema dei beni comuni che viene declinato qua e là continuamente. Dobbiamo ricominciare a ragionare su questo argomento. Quando prima il tema dell'acqua dobbiamo pensare non solamente così da chi do quella che esce dal rubinetto, ma il tema della depurazione, no? Pensare alle condutture. Dobbiamo pensare che la nostra società si è fermata forse per gli ultimi 30-40 anni non facendo quasi più nulla, per cui è chiaro che in questo momento si è messi col cappio al collo degli interventi urgenti da fare e la carenza di risorse. con la furbizia che qualcuno lo farà forse più in fretta, forse in maniera più efficiente, sicuramente aggiungendo ovviamente la sua rendita. Allora, su alcune cose può star bene, su altre secondo me la collettività si è espressa e tutto quello che deve essere fatto perché beni comuni siano gestiti dalla collettività ovviamente in maniera competente, questo io rimango di questo parere. Dico un'ultima cosa, noi abbiamo esempi di servizi dati in appalto, ci metto un secondo, un conto è dare un appalto a un privato tu cur, al quale tu però devi essere capace di esibire i controlli, di applicare le penali, e allora forse vedremo che non è più così conveniente tutto. Altro discorso è quel pasticcio in cui sono un po' io, un po' tu, sono un po' pubblico e un po' privato. Ecco, su questa cosa, su questo pasticcio, un po' pubblico e un po' privato, credo che dobbiamo tirare una riga. Grazie. No, molte cose sono state dette, naturalmente per definizione l'acqua è un bene comune, quindi chi di noi ha bazzicato un po' anche di diritto, diciamo, sostanzialmente si dava come esempio quando si spiegava ai giovani, agli studenti, quali fossero i beni comuni, quindi i beni di tutti, che non sono neanche pubblici, va al di là anche della pubblicità del bene. Il bene comune è una categoria un po' diversa, sostanzialmente sta a significare l'appartenenza a tutti del bene stesso, e quindi la gestione deve essere anche di tutti, nel senso attraverso gli organi, le associazioni rappresentative appunto della comunità nel suo insieme. È stato già detto prima anche che la situazione a come sembra che sia stata superata da questo accordo che è intercorso da tutti i comuni della provincia nell'ambito dell'Alto, per cui il problema non si porrebbe. Però io colgo l'occasione invece per porre il problema un po' della partecipazione che l'ente pubblico ha in alcune società. Como, il comune di Como, partecipa in alcune società, per esempio Villa Erba ed altre ancora, dove noi saremo chiamati, peraltro è un problema che può interessare a tutti, magari io lo pongo così, cerco di suscitare una domanda in tal senso, cioè la domanda dovrebbe essere, e poi cerchiamo insieme la risposta, laddove il comune ha delle partecipazioni in società private, le deve comunque mantenere, qui nel concreto a Como, non in generale, oppure invece si può fare una riflessione per cercare di fare scelte diverse. E la provincia, c'è la richiesta di un aumento di capitale di Villa Erba, e tutto sommato è pure un bene, diciamo, pubblico ed importante. So che nell'ambito della provincia alcuni schieramenti non sono stati favorevoli, ma al di là ora del merito probabilmente anche per questioni di natura procedurale. Quanto prima il Comune di Como sarà chiamato a pronunciarsi. Ne vogliamo riflettere, cosa dobbiamo fare? Grazie. Grazie. Giampaolo, prego. Allora, buonasera, appartengo al mondo della scuola e volevo presentare un po' il problema che quotidianamente ci troviamo ad affrontare noi operatori del mondo della scuola relativamente al disagio giovanile, all'integrazione degli alunni stranieri e degli alunni portatori di gravi disabilità. Assisto continuamente al perimento delle risorse e ad un abbruttimento delle strutture. Leggo nel volto e negli occhi dei miei alunni tutti i loro bisogni e i bisogni delle loro famiglie, ma purtroppo sono sempre più in condizione di non saper rispondere in modo adeguato e concreto. Per cui mi rivolgo a voi e vi chiedo, come pensate voi per la città di Como di declinare le parole giovani, scuola, famiglia, servizi sociali nel vostro agire politico futuro? Grazie. Grazie. Ma non vorrei che la mia risposta sembrasse uno spot elettorale, ma sono profondamente convinta per la mia formazione e per la mia idea di società che il punto più importante su cui un comune deve svolgere il suo lavoro sia proprio quello educativo, di assistenza all'infanzia, di educazione, di formazione. Perché è dalle condizioni di sviluppo che noi garantiamo ai bambini che riusciamo a costruire da una parte una società, una comunità ricca, equilibrata, che ha un futuro, che utilizzerà tutte le potenzialità che sono insite in ogni bambino, e dall'altra parte, cosa importante, è una società che riesce a rendere concreti i diritti che la nostra Costituzione riconosce a ciascuno, cioè da come un bambino ha l'occasione, l'opportunità di crescere, di svilupparsi nei primi anni, dipende in gran parte il suo futuro, e quindi dipendono le condizioni di reale opportunità, di reale uguaglianza che è nel dettato costituzionale. Quindi dico queste cose con profonda convinzione, e anche se la situazione delle risorse a disposizione sappiamo tutti che sono scarse, credo assolutamente che i tagli non debbano essere fatti in questo ambito, anche perché i tagli fatti in questo ambito e soprattutto nella prevenzione del disagio infantile sono dei tagli stupidi, perché sono dei tagli che vanno a costituire in prospettiva dei costi ben più elevati, dei costi sociali, dei costi delle sofferenze umane, dei costi sociali anche superiori, per cui è assolutamente di breve respiro e appunto anche poi inutile. E penso anche che soltanto attraverso, io credo che in questo momento il problema di servizi sia il modo migliore per riuscire ad aiutare le famiglie, ma poi famiglie, i genitori anche singoli, che spesso si trovano è una cosa che mi sta due secondi e chiudo, che molto spesso si trovano appunto ad affrontare delle situazioni difficilissime, per cui mi pare che questo concetto, proprio insistere sui servizi, sia poi quello che dà risposta anche ad una serie di problemi che ritroviamo nell'ambito sociale allargato. Sulle premesse ovviamente sono completamente d'accordo, dopodiché però dobbiamo fare il passettino, l'ha accennato lei nella fase finale del suo ragionamento, e poi concretamente dobbiamo dirci: l'anno prossimo probabilmente, sono i dati indicativi ad oggi, ci saranno circa 12 milioni di euro di trasferimenti in meno, cioè siamo alle prese con problemi di saccoccia, tanto per dirle alla comasca. Questo è il tema. Cioè io mi sono un po' stancato di sentire declinare questioni di principio, dobbiamo dircelo chiaramente che questo è il tema. Sulle questioni di principio siamo tutti d'accordo. Noi dobbiamo dire che andiamo ad affrontare una situazione nella quale dovremmo dire a qualcuno sì e a qualcuno no. Allora io preferisco dirvi cosa penso rispetto a questo dire a qualcuno sì e a qualcuno no. Non potremo dire sì a tutti. Dovremmo spiegarci fra di noi che non possiamo dirci sì a tutti. Dovremmo dirci che qualcuno deve stare in piedi con le sue gambe e qualcun altro invece dovrà essere tenuto in piedi da tutti quanti noi. Dobbiamo, credo, noi che siamo stati all'opposizione per tanto tempo, anche facendo, come dire, spesso lavorando su piccoli problemi e facendo diventare molto grandi, perché di sostanza lo erano, sapere che questi sono i problemi che domani noi vogliamo trovarci a dover risolvere perché avremo vinto le elezioni. E allora, siccome questo è quello che noi vogliamo fare e tra virgolette siamo persone serie, dobbiamo dirci subito che dovremo imparare a dare delle risposte riconoscendo le diverse esigenze per quello che sono. E qui viene fuori tutto il tema anche della fatica di quello che viene qui da un altro mondo ad abitare in mezzo a noi, e che sappiamo che metà dei nostri concittadini non vorrebbe che fruisse di quell'aiuto e di quel supporto che noi intendiamo dare noi. Su questo noi dobbiamo essere pronti a una sfida a viso aperto. Io direi, dunque, effettivamente diciamo, la previsione di una riduzione delle entrate di bilancio di circa il 10%, come un bilancio di 120 milioni di euro, quindi si parla di 10-12 milioni, circa il 10%, a diciamo normativa vigente. Voglio sperare che la novità governativa, che spero che l'Italia in questa svolta che si sta per attuare, possa apportare degli elementi tali per cui alleggerisca un po' la situazione drammatica che vengono, che naturalmente ove nulla cambiasse si troverebbero di fronte gli enti locali da qui a qualche settimana. Quindi da questo punto di vista io credo che il governo Monti, probabilmente anche per le cose che sta annunciando, potrebbe introdurre delle novità tali per cui la situazione delle casse comunali magari potrà essere meno drammatica. Quindi, secondo elemento, ciononostante ovviamente noi andiamo incontro a un periodo senz'altro di riduzione. Allora, io non ho fatto i conti precisi, ma più o meno, senza sbagliare, ove si procedesse a un'opera di, come dire, di togliere gli sprechi, tanto per capirci, potrei anche adombrare una somma che può aggirarsi su 1 milione di euro, quindi figure apicali inutili, eccetera, eccetera. Per esempio, come ha esposizioni creditizie che non realizza per sciatteria probabilmente o disfunzione degli uffici, di diverse centinaia, forse milioni di euro, dalle sanzioni che noi recupera, eccetera. Quindi, oppure ancora i crediti che ha verso i propri dei soggetti che godono, eccetera. Quindi voglio dire, già in un'opera di questo tipo credo che si possano recuperare briciole ma anche sostanza. Però indubbiamente si pone il problema, per esempio noi sappiamo notizie recenti, gli asili nido, due si prevedono che ci siano delle razionalizzazioni, attualmente il rapporto è del 20% tra entrate e uscite in materia. Naturalmente quelli sono settori ovviamente vitali ed importanti sui quali naturalmente non può essere ridotto il servizio, soltanto volevo dire le famiglie, ecco, però magari mi riservo perché vedo che il tempo è consumato, non ho più tempo. Grazie. Io parto da metà dell'intervento di Bruno, dalla fine dell'intervento di Bruno, per chiarire una cosa che non sono sicuro di aver interpretato in modo corretto. Non so cosa intendesse dire: a qualcuno potremmo dire di sì, a qualcuno dovremmo dire di no. Io lo interpreto in questo senso: a qualcuno che può permetterselo non potremo consentire una differenza tra il costo effettivo del servizio e quello che paga nella misura in cui c'è adesso. L'ultima modifica, per esempio, delle tariffe degli asili nido ha comportato un leggero innalzamento delle tariffe più basse e un abbassamento della tariffa massima. Ecco, io credo che un qualcosa delle risorse che mancheranno dovrà essere recuperato da chi può pagare di più rispetto alla tariffa massima e che può contribuire a coprire per esempio una parte della differenza che c'è tra le entrate per esempio degli asili nido e le uscite, che non è un disavanzo come viene scritto quotidianamente dai giornali, ma è semplicemente una differenza su un investimento fatto per il futuro, differenza che però probabilmente dovrà essere ridotta e potrà essere ridotta secondo me necessariamente in questo modo. L'altra cosa spot che voglio dire riguardo anche al sostegno e all'investimento per il futuro è che, se non sbaglio, le nascite all'ospedale Sant'Anna nell'ultimo anno vedono vicino al 40% la percentuale dei bambini non italiani. Quindi questo richiederà un grande investimento sul mondo della scuola anche per supportare il percorso di questi bambini e dei bambini italiani. Per cui un investimento in termini di mediazione culturale e sostegno per far crescere insieme tutti questi bambini e aiutarli a fare un percorso che sia valido per il futuro della nostra comunità è fondamentale. Quindi queste risorse andranno comunque trovate, perché questo è il futuro che ci aspetta. Grazie. Gianpaolo, prego. Intanto scusami, intanto che faccio prendere il fiato a loro e andiamo avanti sulla domanda, abbiamo attualmente autocraticamente deciso, del resto siamo abituati a un comune da 5 anni che ordina senza chiedere, per cui perché non dovremmo farlo questa sera, che chiuderemo alle 11.30. Abbiamo tre quarti d'ora ancora di domande, lascio che i candidati realizzino che cosa sono andati a mettersi in mano. I bus ci sono fino oltre la mezzanotte, qua c'è uno se vuole che non è venuto in macchina, chi mi dà un passaggio dopo è sempre ben accetto. Dopo che hai detto così te lo scordo. Bene, prego. La mia domanda voleva essere su un argomento pesante, soprattutto trattato a quest'ora, ed è la domanda che riguarda le modalità di finanziamento e di risoluzione dei problemi di bilancio del comune. Perché credo che già avete affrontato in parte questo tema, credo che buona parte del bilancio del Comune di Como venga anche dalla concessioni edilizie, e quindi questo tema si intreccia con il tema del piano di governo del territorio, però mi pare che la vostra posizione sia stata quella di dire faremo un'analisi sulle priorità e faremo delle scelte di priorità. Allora, invece che affrontare il tema di come raggiungere i pareggi di bilancio, io vorrei che voi affrontate il tema di quali priorità, quali settori pensate debbano essere comunque mantenuti ai livelli attuali o addirittura potenziati rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora. Grazie. Allora, discutete il bilancio, questo è un po' pesante, però la cosa è anche per molti versi interessante. È vero, l'urbanistica, l'uso del territorio è un cespite fondamentale di tutte le amministrazioni pubbliche. Far consumare territorio significa sull'altro fronte introitare oneri di urbanizzazione e quant'altro. Però attenzione, noi siamo anche del parere che il territorio possa essere trasformato, fatto crescere. Quindi non si tratta soltanto di un azzeramento, ma certamente e probabilmente di una riduzione. Oggi il bilancio del Comune di Como ha tra 5 e 6 milioni di euro di entrate di oneri di urbanizzazione. L'impatto di questa vicenda sarà nei prossimi anni. In questo momento siamo ancora nella coda dei piani di trasformazione che sono previsti dalle leggi attuali. Sul problema invece del bilancio, che è una questione interessante e seria, e delle priorità. Adesso io riprendo un attimo una cosa che ha detto Mario Lucini, che è stata sui giornali, in IDI per esempio. Allora, una società in forte crisi di natalità come la nostra, in cui la precarietà che caratterizza il mondo dei giovani rende, e tra l'altro la precarietà e la bassa retribuzione media, insomma, in cui le persone che si trovano negli anni di quello che qualcuno definisce gli anni della lotta, in cui uno deve assestarsi e trovarsi una, chiedono che la collettività decida di sostenere la natalità. Insomma, io credo che questa cosa sia una questione, diciamo, culturale, punto. I costi sono alti, pazienza, lì non si risparmia, questo è il mio punto di vista. Su altre cose ovviamente i costi ci dovranno essere, per esempio sull'uso del territorio. Io lo dico francamente, una delle questioni che irrita di più i cittadini è dover pagare il parcheggio. Il parcheggio ovviamente deve essere pagato. Cioè, su questi fronti non è pensabile di dire vabbè ragazzi ci fa comodo. Così come i trasporti, io sono del parere che il trasporto pubblico vada fortemente potenziato e incentivato, ma con due passi, con una tariffazione molto, molto vantaggiosa per chi lo usa sistematicamente e ovviamente invece più pesante per chi immagina di usarlo solo quando gli serve. Ho fatto solo due esempi. Il terzo esempio sono gli interventi sui risparmi. Io sono convinto, e qui non abbiamo tempo per trattare a fondo questa cosa, ma l'ho già detta, che sul tema della gestione del calore ci siano margini enormi. L'appalto scade a primavera, ho già chiesto al sindaco quello lo rinnovi, su questa cosa è tutto da rivedere, quella è tutta spesa corrente che esce dalle finestre aperte delle nostre scuole. La domanda è veramente impegnativa, ripeto un po' quello che ho detto prima, naturalmente noi ragioniamo ora in una situazione con la voce ferma, ma probabilmente ci saranno delle novità che peraltro provengono anche dall'ANCE, quindi dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dove si chiedono anche degli interventi di natura strutturale in materia di bilancio tali da consentire maggior respiro ai comuni. Comunque per restare sul tema concreto, quello che dicevo prima, si tratta soltanto un po' di fare un po' i conti, in effetti noi abbiamo un margine di entrate, che io ho quantificato prima magari sbagliando, ma non di molto, di diverse centinaia di migliaia di euro, per esempio, voglio fare, ma non è una battuta, diciamo tanto per fare della retorica, il direttore generale, che non ci sarà più, ci costa quasi 200.000 euro, 200.000 euro è una somma mica da poco, e così via, ove si andasse anche a una, diciamo, razionalizzazione di quelle che sono le spese maggiori delle figure apicali, quindi probabilmente potremmo risparmiare anche 300.000 o 400.000 euro. Quindi poi si faceva il discorso del recupero delle somme che sono diverse centinaia di migliaia di euro. Attenzione, però io voglio lanciare un altro tema estremamente importante, che qui forse ce lo dimentichiamo. Noi abbiamo un credito sulla carta di 15 milioni di euro, signori, che Multi Development deve dare al comune per la questione di Corsa. Quindi sono 15 milioni di euro che, se effettivamente, vedo che qualcuno magari fosse, cioè se noi pensiamo realmente, perché è un diritto per il comune, però c'è parecchia fiacca su questa cosa che è un po' diffusa, noi abbiamo abitato, dato ragione al comune poche settimane fa, quindi è un tema importante, sono 45 milioni di entrate di cui prende in opere pubbliche 15 in denaro, che è moneta sonante, che peraltro finora ha costituito una delle voci d'entrata dei primi tre anni di questo mandato del bilancio comunale, ma in modo fasullo perché non c'è il presupposto. Ora però, se noi lavoriamo concretamente in questa direzione, quindi ho voluto dare degli esempi assolutamente reali e concreti che possono, in questa fase difficilissima, quantomeno parare i peggiori momenti per almeno un biennio. Va bene. Visto che ci ritorniamo sempre, io sono Ticosa, ovviamente non la penso come Marcello, penso che se ci va bene recuperiamo i 3 milioni e mezzo di fideiussione, se riusciamo ad avere ragione noi, sicuramente non andiamo a realizzare quel progetto perché Multi non ci sta più, e noi siamo contenti che non ci stia più perché non era positivo per la città. E comunque anche quelli erano soldi che avevano un inizio e una fine, dopodiché l'anno dopo non ci risolvono il problema di fare il bilancio, perché è un altro pezzo di città che abbiamo venduto, e quindi dobbiamo ricominciare da capo a trovare risorse. Un piccolo accenno, Bruno, sul fatto del contratto per l'energia. Se è già stato esaudito, perché il sindaco ha già dato una proroga di un anno, per cui quello è già stato prorogato, il contratto del calore, per cui quello può essere interessante da vedere in termini di risparmio di determinate risorse. Per il resto, francamente, se non cambia qualcosa dal punto di vista dei trasferimenti dello Stato, veramente bisognerà inventarsi qualcosa di particolare, perché grandi prospettive di avere risorse per far tutto, francamente non è facile vederne. Ovviamente sulle priorità non mi discosto da quanto hanno detto i miei colleghi riguardo agli investimenti sulle persone in generale, quindi dai servizi sociali alla scuola. Così, per quanto riguarda il vedere come fare, io penso che in questi anni, per esempio, è stato fatto un lavoro non particolarmente scientifico, accurato e impegnato sul reperimento di risorse anche da fondi esterni a livello nazionale. Cioè, sono in molti paesi, in molte città europee, buona parte di bilanci fatti su progetti specifici, ben costruiti e mirati, sono stati resi possibili dai finanziamenti europei. Quindi questa è una cosa che secondo me va valorizzata maggiormente. E per il resto io credo che sia inevitabile comunque sia che qualcosa debba cambiare sui trasferimenti da parte dello Stato, perché in queste condizioni è quasi impossibile fare un bilancio ragionevole. Mi ero dimenticato un'altra cosa, c'era un'altra cosa, ma vediamo se un minuto a tutti dopo per chiudere i corsi magari rimasti a metà. Tutti e quattro comunque magari su qualcuna domanda, su qualcun'altra, insomma, se riuscito a finire, insomma, giusto. Prego. Ma in un incontro che ho fatto recentemente con iniziativa personale, diciamo così, non di questi comuni, sono rimasta abbastanza spiazzata da un intervento di fronte alla mia comunque preoccupazione rispetto ai tagli delle risorse dei comuni. Sono rimasta abbastanza spiazzata dalla presenza di una persona, oltretutto imprenditore, che mi invitava a non enfatizzare troppo questo aspetto della scarsità delle risorse, sottolineando, e io sono d'accordo, che quello di cui c'è più bisogno è di un progetto di sviluppo di questa città, sviluppo in termini non quantitativi, ma un disegno di quello che vogliamo fare diventare questa città, dopodiché con delle idee chiare, con ogni probabilità è possibile riuscire ad attivare le risorse necessarie. Ripeto, era un'osservazione che mi è stata rivolta a lato di una mia sottolineatura dell'importanza comunque di fare delle previsioni più, diciamo così, attente. Ci ho riflettuto e credo che sia profondamente vero questa necessità primaria, di avere una visione da questo punto di vista imprenditoriale anche della gestione della città, avere delle idee, dei progetti e andare ad attivare le risorse necessarie. Sicuramente, è stato detto anche adesso, una delle prime cose da fare è quello anche di non accettare una politica nazionale in cui il taglio dei trasferimenti agli enti locali è il modo per il risanamento del deficit pubblico, e non possiamo lasciare questa battaglia nelle mani della Lega, questo sarebbe un errore pericolosissimo, e secondo me la nostra città non si è fatta sentire per niente in mezzo anche a un coro di politici omogenei alla precedente maggioranza di governo, che comunque hanno pesantemente denunciato la iniquità di questa impostazione. Un discorso che fra l'altro è di tagli che sono i tagli lineari e non fanno riferimento alla virtuosità o meno dei comuni. Non so se come sarebbe così virtuosa, ma comunque insomma, sono dei temi che secondo me dobbiamo seguire con attenzione e non lasciare in mano appunto una parte politica. Spazi sicuramente di gestione più attenta, più oculata delle risorse pubbliche ci sono, e questo lo vediamo tutti senza richiamare esempi troppo dettagliati, e il tema di dare le giuste priorità. Da qui partirei, e poi c'è il problema di recuperare risorse, anche risorse private disponibili, secondo me i lasciti, quel riferimento che una volta, dopo non faccio più il secondo giro, che una volta comunque la cittadinanza di Como sosteneva, e gli aspetti anche di Unione Europea. Poi vi racconto due progetti che ho scoperto recentemente. Allora adesso abbiamo automaticamente deciso, ci siete veramente sindaci quando si può decidere, come sindaci attuali che decide, cavoli vostri, insomma, abbiamo deciso così. Alla fine, adesso facciamo questa un'altra domanda ancora, vi lasciamo un intervento conclusivo, anche in 3 minuti, massimo, incredibile l'avarizia, in realtà è tutto studiato per non farli crollare loro, per levarvi la parola sul più bello. Dove però vi chiederemo una cosa, cioè chi vuole concludere o precisare, o ti sembra di aver lasciato qualche cosa in sospeso, può utilizzare questo tempo, ma anche chiudere sottolineando a modesto parere personale l'unicità della propria candidatura, la particolarità, la peculiarità della propria corsa nelle primarie, per, diciamo, non dico una dichiarazione di intenti o qualche cosa, però sostanzialmente ecco perché secondo il candidato è la candidata da privilegiare. Secondo me. uno spottino, diciamo, conclusivo, un autospot che poi c'è modo di condurlo, ecco, ognuno può scegliere come utilizzare questo prezioso tempo definitivo. Gianpaolo? Io vorrei ritornare un po' sul discorso delle priorità, nel senso che lavorando nel sociale mi piacerebbe capire dal punto di vista dei candidati sindaci cosa vuol dire la giusta priorità, perché priorità è priorità, non esiste una priorità dal mio punto di vista giusto o sbagliata, perché quando c'è un bisogno sociale è chiaro che a qualcuno bisogna dire sì, a qualcuno bisogna dire no. Allora vorrei che ci si esprimesse su quali sono i criteri che definiscono le priorità, a quali bisogna dire sì, a quali bisogna dire no, e soprattutto questi no chi li gestisce e quale supporto viene dato agli operatori del sociale che sono in prima linea a dover gestire questi no di fronte alle persone che esprimono dei bisogni e che spesso vengono lasciati soli come ultimo anello di una catena e ritenuti responsabili che si beccano tutte le arrabbiature di chi le scelte le ha fatte in alto. E la seconda domanda, riprendendo l'ultimo intervento della candidata Itrozzi, è quale tipo di idea di città, soprattutto dal punto di vista economico, i candidati sindaci hanno di Como. Cosa abbiamo visto Como trasformarsi da città industriale a città terziaria, città commerciale, in parte città turistica. Allora quale secondo loro dovrebbe essere il nuovo cuore di questa città? Grazie. A proposito di priorità che sono importanti, io sono definitivamente bollito. A chi dovrà la parola? Non mi ricordo. No, è finito. Eravate attenti? Sembra che è finito tutto. Chi è stato il primo? Cominciare. Quindi tocca a Marcello. Siete qua tutti? Okay. Riguardo al tema delle priorità, io un po' penso a quelle che sono le attività principali dell'amministrazione comunale di Como o di fronte a quello che è il bilancio e la relazione previsionale programmatica. Allora noi cosa vediamo? Vediamo il tema della sicurezza, che sicuramente è un tema, sicurezza non soltanto di natura fisica ma anche sociale. Il tema sicuramente dell'istruzione è un tema sicuramente prioritario. Il tema della cultura è un tema prioritario, il tema anche dell'assistenza alle famiglie bisognose, ai bambini, agli anziani è un tema prioritario. Quindi francamente tra queste ho fatto l'esempio, no? Ho fatto degli esempi, il tema della mobilità, il tema del paesaggio, il tema dell'urbanistica, tutti gli interventi dell'amministrazione comunale sono temi fondamentali. Perché se noi ne trascurassimo uno, senz'altro noi faremmo un danno, probabilmente anche difficilmente recuperabile. Allora, nell'ambito di questi interventi che sono strategici e importanti, noi dobbiamo assolutamente tenere quello che è sostanzialmente un equilibrio di fondo in una prospettiva ovviamente che tenga conto della realtà concreta, ma che si muova secondo degli obiettivi. Mi rendo conto che sono generico, ma naturalmente nei tempi dati non posso che essere così. Quindi il tema del bisogno, dicevamo, il tema dei bambini, il tema degli anziani e così via. Riguardo alla seconda domanda, diceva quali sono ora i settori, il futuro di Como, come lo vedete il futuro di Como? Io penso, guarda, a tre settori, a tre obiettivi strategici fondamentali. Allora, i servizi di qualità. Quindi Como è sempre più, se noi andiamo a vedere anche le assunzioni che si stanno facendo da qualche anno, sostanzialmente sono molto, diciamo, nel settore dei servizi, però sono servizi di bassa qualità, commercio e ristorazione, quindi è una città che sta perdendo parecchi corpi, quindi bisogna aumentare quello che è il suo know-how, cioè la sua capacità di essere al passo dei tempi anche in un ambito territoriale che sicuramente non è ultimo in Italia neanche in Europa. Quindi l'università ha senz'altro un ruolo strategico. Penso poi alla cultura, l'abbiamo detto prima, e al turismo. Attenzione, Como ha un bilancio stanza per il turismo, pur dicendo noi che gli obiettivi strategici è il turismo, stanza veramente quattro soldi. Due anni fa, credetemi, in conto capitale Como ha stanziato 500 euro, non 500 mila euro, 500 euro, di cui 250 li ha spesi e gli altri non li ha spesi. Discorso priorità, io penso che la signora facesse riferimento a quello che avevamo indicato comunque tutti quanti, mi sembra, come priorità delle priorità l'attenzione alle persone. E credo che in quest'ambito forse da intendersi la sua domanda. E parlando di persone, parlando di priorità, la priorità di una comunità quando parla di persone non può essere che quella di chi è più debole. E quindi l'attenzione ai vari ambiti di difficoltà e di marginalità che si creano nella nostra società e quindi anche nella nostra Como, dimenticarsi di queste situazioni significa non solo non dimostrare solidarietà ma vivere peggio tutti. Quindi l'unico modo per crescere davvero è quello di sostenere adeguatamente le condizioni di chi nei vari ambiti si trova in maggiore difficoltà. Questo credo che debba comportare anche una grande apertura di dialogo, visto le difficoltà finanziarie che ha un'amministrazione, con tutto il mondo dell'associazionismo, del volontariato, non tanto per farsi strumentalmente surrogare, quanto per creare quel circuito virtuoso di corresponsabilità nella crescita comune che da solo ci può dare la garanzia di camminare insieme. Quindi questo è, in questi anni l'esperienza non mi sembra sia stata esattamente in questi termini, cioè i problemi più spinosi, quelli che più infastidivano la pancia di almeno una buona quota dei nostri concittadini, sono stati nascosti sotto il tappeto confidando sull'intervento di altri enti, di altre associazioni al di fuori dell'amministrazione. Credo che questo non sia né dignitoso per le persone né auspicabile per il futuro. L'altra domanda la prossima volta, mi scuso. Adesso arriva il minuto. Lei ha ragione, giuste priorità, quali sono quelle giuste? La mia idea è che, ad esempio, io non stavo già facendo una graduatoria all'interno dei servizi sociali, ma delle spese complessive. Allora, ad esempio, partire proprio con una rigorosa riconsiderazione di tutte le spese che sono solo funzionali alla sopravvivenza della macchina dell'organizzazione, penso che si imponga, e da questo punto di vista una dichiarazione assolutamente chiara e trasparente che anche su queste cose non dobbiamo lasciare spazi ad altre forze, ad altri movimenti, grillini per intenderci, cioè una politica assolutamente austera e all'insegna del risparmio per quanto riguarda compensi e retribuzioni all'interno della macchina comunale, credo che deve essere fatta. Per me giusta priorità è tutto quello che va ai servizi sociali, è già stato detto, e il discorso dei bambini, dell'educazione in primo luogo e degli anziani, agli anziani come senso anche di proprio di riconoscenza per quello che hanno fatto. Ma non solo quello che penso io, ricopriamo il discorso iniziale che abbiamo fatto sulla partecipazione. Se non ci sono risorse sufficienti per far tutto, questo dovrà essere uno degli elementi da mettere in campo e attorno alle quali costruire, condividere con i cittadini delle risposte che tengano conto delle possibilità che ci sono. La possibilità, ecco, cercando di allargare, io poi sulla possibilità di acquisire risorse per realizzare altri interventi, ad esempio in ambito infrastrutturale o economico, sono più aperta e più fantasiosa, si possono utilizzare risorse europee, quello che stavo dicendo prima, ma anche delle forme di partecipazione pubblico-privato per realizzare delle infrastrutture i cui benefici poi siano di interesse per la collettività. Quindi la priorità è quella dei servizi sociali, modello di sviluppo. Modello di sviluppo, io credo che la nostra città abbia tutti gli elementi, anche qui c'è il discorso di partecipazione e discussione ampia attorno a questi temi, la nostra città abbia tutte le possibilità di giocare la carta di un turismo culturale, di un turismo di qualità, che sia una risposta ai bisogni di bellezza dei cittadini e poi anche un discorso economico che può attirare turisti dall'estero, assieme ad un altro elemento che è la conoscenza. La conoscenza e quindi lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, di occasioni lavorative per i giovani nell'ambito della conoscenza. Unico esempio, fra l'altro ho presentato a TED Lake 2 settimane fa, noi siamo bravissimi nel design, perché non delle opportunità di design legato nell'informatica, il design per la realizzazione di creazione di intrattenimento nell'ambito del virtuale. Ecco, forse a Como le conoscenze, le competenze, le specialità ci sono tutte. Mi fanno quante volte la parola su questa cosa. Il mio vicino mi scambia, il problema è quello. No, mentre il mio vicino togliervi la parola, mi rendo conto di quanti parola. Prego, magari. Allora, brevemente, quello che diceva Manuela, il mio pensiero è che bisogna dare secondo il bisogno che viene in qualche modo espresso e manifestato. La standardizzazione della risposta non è una risposta. A qualcuno viene dato troppo, a qualcuno troppo poco, sicuramente. Adesso non voglio declinare degli esempi perché. Però io credo che la risposta deve essere questa. Io dentro l'ambito sociale non vedo la priorità, vedo la gradualità delle situazioni. Quindi io credo che bisogna rendere acuta. Noi siamo un comune che per motivi tra virgolette politico-ideologico, non voglio entrare nel merito perché su questa questione mi sono sfilato in grande imbarazzo, si è deciso che non si mette a concorso il dirigente dei servizi sociali per ragioni che qui non sto a indagare. Qualunque sia la ragione, io credo che un settore del servizio sociale del Comune di Como debba avere un dirigente, poi lo misuro sui risultati. Ma non importa cosa sia, ma secondo me il dirigente ci deve, bisogna fare un concorso e avere un dirigente e misurare i suoi risultati. Chiusa la parentesi. Torno a un'altra questione, noi siamo dentro questa stanza, siamo dentro questa città, siamo dentro questo paese, siamo dentro questo mondo. Cioè credo che se noi non proviamo a respirare un momentino anche alzando il pensiero, siamo, come dire, troppo dentro di noi. Noi siamo una società che sopporta oggi, che decine, centinaia, migliaia di giovani arrivino a 30 anni lavorando gratis dentro strutture dentro le quali ci sono figure apicali che guadagnano centinaia di migliaia di euro, continuando a fare, come li chiamano, stage piuttosto che tirocini, piuttosto che. La precarietà del mondo giovanile è un dato strutturale voluto da un sistema che separa coloro che sono, come dire, sicuri della loro situazione, accumulano ricchezza, rispetto a quelli che si devono guadagnare un posto, spesso con meccanismi ambigui se non clientelari. Allora, se noi rimettiamo in discussione anche tutto questo e cominciamo a parlare un altro linguaggio, noi siamo sempre lì soltanto a discutere che cosa faremo da grandi. Noi da grandi, noi grandi ci siamo diventati e dobbiamo dire noi la pensiamo cos'ha. E la pensiamo cos'ha e vogliamo praticare cos'ha là dove saremo e là dove siamo. Dobbiamo avere il coraggio di dirle queste cose, perché altrimenti noi continueremo a chiedere che i volontari risolvano i problemi della collettività. Io arrivo quasi a un paradosso: vietiamo il volontariato. Vietiamolo nel senso, è un paradosso evidentemente. Il volontariato fa parte dello stile delle persone, non è questo. Però voglio dire, dentro determinate realtà la prestazione va comunque riconosciuta e remunerata. Questo dobbiamo dircelo con grande serietà, qualunque sia la prestazione alla quale ci stiamo riferendo. Se c'è prestazione, questa va riconosciuta. Dobbiamo cominciare a dire che questa è una città che vuole guardare ai giovani e dire ai ragazzi che qui tentiamo di praticare un altro pensiero e investire su università, sviluppo, profitto che nasce dall'intelligenza. Questi ultimi interventi che si portano adesso, vi lascio preparare l'intervento finale, scriviamo perché siamo già arrivati, come avevamo detto, in nome di quella regola che dice che quando uno va a una festa e incontra uno gli fa una domanda e non ha risposta, poi va a casa per giorni, limogina, ma potevo dirgli lo lasciamo fare adesso, per cui vi lascio due minuti anche di più per concentrarvi un attimo su che cosa volete dire. Io veramente non siete obbligati, perché non è che dovete obbedirmi, grazie al cielo, per cui se volete fare un diciamo punto sulla situazione della vostra candidatura, cioè sul perché, al di là della scelta ormai ovvia, non abbiamo rievocato le vostre figure professionali, le vostre figure politiche, perché siete ben noti da un mese abbondante a tutte le persone che intendono partecipare alle primarie, che invece mi sembra più interessante ricordare che sono il 27 di novembre, chi non si fosse segnato la data. C'è un altro incontro, prego, che dobbiamo ricordare, che credo sia il 22, alle 21 all'Hotel Continental. E poi, se mi è permesso uno spot pubblicitario, ricordo che informazione accurata sulle proposte dei vari candidati si può trovare nei video di Altra Como, negli interventi molto puntuali di Qui Como, che è presente anche stasera, e anche su Alcune Informazioni. Io cito per ultimo per farla ricordare meglio. Quindi, inoltre, strano che non abbia menzionato la provincia. Inoltre, come se non ci fossero. La provincia è, come tutti sappiamo, il principale quotidiano comasco. Che segue con viva attenzione. Che segue con viva attenzione. Grande attenzione, puntuale. Per esempio, non citando neppure l'iniziativa di festeggiamento di ieri che l'Arci aveva promosso sulla caduta di un certo tiranno. È un brutto momento se ti chiami SB. Poi bisogna vedere se volete fare una notizia locale o una notizia nazionale. Non c'è la responsabilità di Alessio. E peraltro ricordo a tutti che c'è una pagina Facebook di Primario Vere per Como, dove c'è un intenso dibattito sui temi dell'attività politica locale. Quindi ci sono molti diversi luoghi dove altre domande potranno essere rivolte ai candidati. L'ultima cosa, scusate, naturalmente ciascuno dei candidati e la candidata hanno propri spazi telematici, propri spazi informatici ai quali si possono rivolgere ulteriori domande. Bene, faccio due ultimi passaggi sempre di, diciamo, di servizio. Un'iniziativa molto particolare che ha coinvolto e coinvolgerà, perché siamo a metà del percorso, tutti e quattro i candidati, è i Feltrinelli, si chiama Letture Primarie, ne abbiamo già fatte due con Iantorno e con Lucini, ne faremo altre due con Magatti domani pomeriggio e con Gisella Introzzi giovedì. L'idea, che era sembrata bella, è vero che dal risultato è bella, è quella di far sì che il candidato parli tutto quello che ha parlato questa sera, cioè di se stesso, delle sue letture, delle sue passioni, di quello che loro l'hanno già fatto. Bisogna tenere una par condicio costante in queste cose. Adesso voi non sapete, io questa mailina è tutta mentale, dicendo se adesso io che ordine la faccio fare questa cosa, perché sarà per me, forse potete fare bim bum bam tra di voi, trovare un bim di accordo, non lasciare, non posso farlo scegliere a loro, perché altrimenti ognuno dice chi sta già magari sostenendo. Anche a questo proposito, per non sembrare brancucato, ci sono diverse personalità politiche anche di spicco in sala che io saluto collettivamente senza salutare per nome, perché poi sostengono magari un candidato, una candidata piuttosto che un altro, e mi sembra indelicato in questo momento di confronto paritario mettersi tutti i suoi ordini, non di caso l'hanno sempre fatti, per cui non si mai manchi la creanza. Allora, li facciamo intervenire in ordine alfabetico? In ordine alfabetico di cognome? Sembra facile, no? Si scanna su queste cose. Va bene l'ordine alfabetico di cognome? Qual è quello che viene prima? Iantorno, il comodo. Allora, adesso stavolta il microfono glielo passo tutte le volte, io così ricordo. Marcello Iantorno, prego. Grazie, l'ultimo intervento, vero? Allora, tre minuti, parliamo con sincerità, perché cerchiamo di essere assolutamente aperte e colloquiali. Allora, io ritengo che Como è una città ormai da tempo in forte declino. Sostanzialmente le cause di questo declino, che peraltro sono note a tutti, sono diverse, anche complesse e non solo locali. Però però ritengo che sostanzialmente vi è una carenza di forte di classe dirigente di ambiti di provenienza di ambiti diversi. Per quanto riguarda, diciamo, la dirigenza di carattere pubblico, politico, amministrativo, sono assolutamente convinto, perché poi la città la conosciamo, che indubbiamente segna una negatività oramai direi da lustri questa situazione. E chi finora ha governato questa città, quantomeno negli ultimi 2, 3, 4 lustri, ha grandissime responsabilità per il punto in cui la città si trova. Da questo punto di vista, diciamo, è una situazione, diciamo, irreparabile. È possibile un'inversione di tendenza? Bene, io sono convinto. Intanto io, questo è il mio primo mandato, io sono avvocato, la passione politica caratterizza la mia vita e anche l'impegno, ma indubbiamente per un certo lasso di tempo ho lavorato come tutti gli altri, non mi sono impegnato in modo diretto, diciamo, nelle istituzioni. Poi c'è stata l'occasione appunto della lista dell'Ulivo con Gaffuri candidato sindaco, e quindi volentieri mi sono impegnato in questa occasione, diciamo, per passione, anche perché per dare il mio contributo politico e di competenza. Mi sono molto impegnato in questi 4 anni e 8 mesi, ho dedicato molte energie, credo anche con competenza, lo dico senza falsa modestia, anche con una certa efficacia. Mi sono accorto che questa città è possibile realizzare un'inversione di tendenza ad alcune condizioni molto precise, e qui ci sono le ragioni della mia candidatura. La prima ragione intanto è che, avendo lavorato, ho ritenuto assolutamente naturale continuare nell'impegno che ho profuso in questi anni, quindi nulla di più, nulla di meno, peraltro senza nessun'ansia di prestazione, ma con molta serenità. La seconda cosa è che io ritengo che con una classe dirigente amministrativa adeguata sia assolutamente possibile, scusate anche la presunzione, ma certo, avviare sicuramente un'inversione di tendenza. Quali sono le condizioni? Dunque, sicuramente la passione, che deve essere indubbia, forte. Seconda cosa, il rigore morale. Mi dia un minuto per cortesia, lo possono utilizzare i colleghi. Il rigore morale, l'assoluta autonomia e indipendenza, questa è la condizione. Uno dei problemi centrali di questa città è che chi la dirige, chi ha responsabilità politica amministrativa, non è autonomo né indipendente. Io vi potrei dimostrare caso per caso come tutte le decisioni non vengono prese nell'interesse della città, ma vengono prese soltanto per soddisfare interessi di parte, di partito oppure di congreghe. Allora, io dico, e questa è la ragione della mia candidatura ed è il mio impegno forte, o io divenissi sindaco di questa città, e lo dico senza presunzione, io gliela rivolto da così a così, sin dalle prime mosse io ho già annunciato il mio primo intervento, manderò a casa tutti i 104 nominati illegalmente in tutti gli enti, le partecipate, le fondazioni, non faccio nulla di straordinario, esattamente applico alla lettera il decreto di risoluzione del rapporto che già mi sapia sta portando a Milano. Grazie a tutti. Ma c'è lì intorno, c'è l'alfabeto, non mi inganna, Gisele Crozzi. Ah, boh, 20 minuti, 4 minuti. Cerco di recuperare il tempo in più che mi sono presa prima, scusandomi con voi. Ma io quello che voglio dire sono un po' le ragioni per le quali mi sono candidata. Io mi sono trovata ad aver maturato un'esperienza che professionalmente è stata molto interessante in un ambiente che è fatto di pubblica amministrazione, ma di pubblica amministrazione e di privato. Quindi tutta la mia storia ha a che fare con il funzionamento e le regole e gli atti amministrativi, ma anche con una capacità di dare risposta ai bisogni della collettività, specificatamente in ambito del sistema economico, del sistema delle imprese. È un allenamento sviluppato anche con diversi passaggi lavorativi, parte a Como, parte a Milano. La cosa che più mi ha lasciato questo lungo periodo di lavoro, più di 40 anni, che è una qualità che a questo punto mi riconosco, è una capacità di riuscire a mettere assieme esperienze diverse, persone diverse, esigenze diverse, interessi diversi, cioè riuscire a fare rete. Quindi non tanto un approccio specialistico, che è quello che mi contraddistingueva all'inizio della mia attività lavorativa, quanto piuttosto proprio quella del networking. È una cosa che mi è riuscita abbastanza bene, anche perché una visione di squadra è una visione che mi porto dietro anche per un passato sportivo e che proprio corrisponde al mio modo di essere, non la ricerco, ma sono così. Ecco, tutta questa storia, tutta questa attività credo che possa essere utile in una città come Como e possa essere utile per riuscire a costruire di più delle occasioni di integrazione, perché credo che in termini di sviluppo economico, di crescita della città, di tutela dell'ambiente, di attenzione alle esigenze delle persone, il salto che sia necessario fare è proprio quello di ricostruire una visione d'insieme piuttosto che degli approcci specialistici e separati. E quindi mi piacerebbe appunto vedere in che misura quello che ho fatto fino adesso possa essere utile anche per la mia città. Grazie. Mario Lucini. Sì, come dicevo prima, l'autopromozione non rientra nelle mie peculiarità. L'autopromozione non è il mio forte, per cui io mi limito a dire che secondo me davvero il centrosinistra questa volta, se riesce a costruire un percorso condiviso, partecipato, concreto, che sia in grado di misurarsi con la realtà effettiva della nostra città e con le cose possibili da fare e utili per la città, ha concrete possibilità di andare alla guida di questa amministrazione. Quindi l'obiettivo principale è quello. Sul candidato sindaco la scelta aspetta a voi, quindi scegliete il candidato sindaco che può garantire secondo voi le migliori condizioni perché questo percorso si realizzi e perché possa diventare il sindaco di Como. Dono Magatti. Allora, cosa devo dire? Anch'io non sono uno specialista dell'autopromozione e quindi dico che le persone che hanno creduto in me, che mi hanno chiesto di fare questa esperienza che stiamo facendo insieme, che è un'esperienza completamente nuova e diversa, io vorrei che riflettessimo insieme un attimo su questo passaggio, perché è la prima volta che facciamo un percorso così, in cui in realtà non siamo contrapposti, ma siamo accanto. Per cui non avviene come nel dibattito politico consueto, per cui devi in qualche modo lavorare per come dire, segnare la differenza o marcare comunque una. Questa è una cosa molto interessante che prima, mentre ascoltavo loro, intanto pensavo un po' a me stesso. Io ho lavorato tutta la vita per cercare di far realizzare agli altri i loro sogni, perché quando lavorate con dei ragazzi, con dei giovani, non sei tu che conti, è il sogno che si porta dentro lui che è importante. E in questo senso ovviamente credo che abbia senso immaginare che io possa stare qui, non tanto perché io ho delle belle idee e sono una bella persona, cosa che credo che per qualcuno possa anche essere, ma perché questo è a disposizione. Sono state dette prima, io mi ritrovo in questa cosa, il fatto di costruire qualche cosa dentro cui tanti possano riconoscersi al di là dei limiti che ha oggi l'agire politico. Oggi chi si connota come persona che si dedica alla politica è per lo più rappresentato come uno che sta calcolando un interesse, che sta cercando una sistemazione. Io ingenuamente mi rimetto tra coloro che vivono ancora di idealità, però dietro le spalle ho tanti anni di lavoro con alcune persone, dentro le istituzioni, fuori, che sono il piccolo patrimonio di competenza che porto, oltre alla mia storia personale e alle mie competenze, quelle di altra natura che qui non sono rilevanti. Credo che sia questo quello che porto e che metto a disposizione di tutti. Grazie. Grazie, io ringrazio ancora tutti e quattro i candidati per essersi prestati alla mannaia del secondo minuto. Chiamerei, se mi date un minuto, perché è importante farlo per i ringraziamenti di Richard, tanto io lo ringrazio, Enzo Antuono e tutta l'ACI per aver messo a disposizione il Gloria. Sì, io ringrazio voi per la partecipazione. Devo dire, noi un po' ci crediamo che si possa vincere, perché tutto sommato crediamo che alla fine, come dire, le buone idee, lasciatemelo dire, il buon senso, possano prevalere. Questa città è arrivata a livelli di degrado assolutamente intollerabili e vedo e vediamo che la partecipazione a tutto questo percorso dei cittadini è una partecipazione che è cominciata già qualche mese fa, cresce e va avanti, e contiamo molto su questo, perché da questo passaggio importante riusciremo ad avere dei risultati. Grazie ai candidati, ai nostri candidati, perché indipendentemente da chi di loro vincerà, sono i nostri candidati, e chi di loro vincerà sarà uno di tutti sostenuto. Grazie. Lui spera di vincere perché è un cinema, e a cinema vincono i buoni.